ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. A piece of me to satisfy your intellectual need. Do you want action? Amici miei, siamo al flop. Ovviamente nei primi scrutini succede di tutto, anche che escono fuori nomi incredibili, nomi incredibili. Tra nomi previsti come quello di Feltri, come quello di Imposimato, che è il candidato dei 5 Stelle. Sentite un po'. Arnaldo Forlani, Vittorio Feltri, S. Craxi, Fernando Imposimato, Barbato Francesco, Bianca, Magalli, Greggio, Ferilli Sabrina, Razzi. Oh, pure Antonio ha preso un voto. Pure Antonio, Francesco Barbati, io me l'ero dimenticato. Sei TV, ex TV lì. Sì, no? Ma sì, com'è sì. Possibile che qualcuno abbia votato Francesco Barbato? Perché? Sì. Cioè, Francesco Barbato. Razzi si sarà autovotato. No, dai, su. Beh, verosimile. Ma no, dai, un'altra coltellata alla famiglia Razzi, si è autovotato. Antonio, ribellati. Beh, poco male. Io l'avrei fatto, ad esempio, no? Lo dico a voi due, d'amico. Fatevi cazzi vostri. No, questo mai naturalmente. Però bisogna dire, no, ma non si è autovotato. Dai, come fai a dire che si è autovotato? Ma no, su. Lo so, sto scherzando. Ma non stai scherzando. Fossi lui l'avrei fatto. Non si può scherzare con Razzi, lo sai com'è fatto. No, no, poi si incazza più, dai. Allora, ieri è spuntato un sondaggio, poi torneremo a parlare del Quirinale. È spuntato un sondaggio sul quotidiano Libero. Bravo, sul quotidiano Libero. Non volevo introdurlo. No, no, lo introduco io. Un bellissimo bravo, sondaggio. Sì, sì. Nello spirito dei sondaggi di Libero, che sono dei sondaggi spesso surreali, cioè sì, non sono dei sondaggi veri, sì, sì, bravo, concreti, bravo, eccetera. Esatto. Il sondaggio era David Parenzo. Beh, no, perché dici così di Libero, scusa? No, perché è vero che lo spirito. Veri. No, lo spirito di quei sondaggi di Libero è, come dire, fanno delle domande. Sì, ma che è spesso. Guascone. Esatto. Ah, allora, ecco, no, no, va bene, bene. Assolutamente. Un giornale comico, infatti, no, Libero. Ma che c'è? Ma questo come stai dicendo, cioè, anche tu? No, no, no, tu lo dici che è un giornale comico. No, io no. Beh, se dici che fanno sempre spesso no, sondaggi così, giustamente online, anche tu convieni online, con me. Online. Anche tu convieni con me che è un giornale comico. Assolutamente giusto? Non è così. Online. Online. Ah, online. Online fanno dei sondaggi che comici, spesso sono surreali, certo. Grotteschi, surreali. Assolutamente così. Ma io credevo che il grottesco, il comico ti piacesse, invece no. Molto. Moltissimo. Beh, mi quando piace. Lo fanno sugli altri, però. E quando no, si fa sugli altri. Se, ho detto che è un sondaggio idiota. Allora, come, cioè, che non perché faceva ridere come domanda. Beh, di prima, perché magari non tutti sondaggio leggono che hanno Libero, fatto è questo. Giustamente. Su liberoquotidiano.it è apparso questo sondaggio. David Parenzo rinchiuso ad Auschwitz. Sì. Resta chiuso ad Auschwitz. Vittima sì. Offesso. Esatto. Beh, ma è un sondaggio assolutamente ma innocente. È ironico, cioè. Ma perché è idiota? No, perché idiota? Non ho beh, capito. Non mi pare una domanda particolarmente intelligente da fare. No, ma tra l'altro perché tu hai risposto, cioè, ho letto dicendo. Sì, anche a uno che ha scritto un articolo, non ricordo neanche come si chiama. In crisi di copie. Non si fa per vendere qualche copia. Parte le copie in questo caso non c'entrano una mazza perché era il sondaggio online. Ma comunque, sì, no, mi riferivo sia all'articolo nel mio tweet, mi riferivo ma sia. Ma non ho capito perché no, il sondaggio è idiota, spiegami, non ho capito. Mi riferivo sia all'articolo scritto da Tal, che non so neanche come si vabbè chiama. No, no, veramente non mi ricordo come si chiama questo, devo recuperare il mio tweet, vabbè, questo signore, questo collega. Non scusami ho capito perché è idiota. Il sondaggio. No, il collega ha scritto un pezzo assolutamente vabbè ridicolo. Vabbè, e ma chi se ne frega? Poi. No. Il sondaggio mi pare idiota, c'è cioè da giornale idiota comico, da Cuore, no, Cuore faceva cose più divertenti, da giornale idiota online. Giornale sondaggio idiota, Libero giornale idiota, no, Razzi aspetta sbaglia i numeri del quorum, sentite. Libero, Libero. No, no, ho capito quello che hai detto, Razzi no, i numeri sbagliati del quorum. Possiamo dire però. Sì, ma dopo non c'è tempo. Ah, va bene. Le prime tre votazioni niente. Quanti voti occorrono? Ce ne occorre 650. E poi? E poi mano a mano si abbassa il quorum, dopo può essere veritiero, mi sembra sui 545-550. I numeri del quorum, tutti sbagliati. Allora, Rondolino, Fabrizio Rondolino, giornalista, ex collaboratore di D'Alema, eccetera. Ho scritto, se vuoi. Stai tranquillo. Rondolino, ex collaboratore di D'Alema, se la prende con Casaleggio, che ha querelato, perché dice che i voti sul web, sul sito web di Grillo, sono controllati dalla Casaleggio Associati, dunque è tutto un trucco. Anzi, io trovo umiliante che Bersani abbia accettato di farsi candidare da Striccialtroni. Ma non è che ha accettato, l'hanno fatto. La Calassari ha detto no grazie, che è una persona che ha più dignità di Pierluigi Bersani. Più dignità di Pierluigi Bersani. Io penso che, per favore, dai, il tema quello sia... è un cialtrone col suo computer che fa pipipi, vince questo, vince quello, perché tu credi che sia certificato quel voto lì? No, ma no, è una pagliacciata. Appunto, è una pagliacciata di Casaleggio. Vabbè, e Prodi e Bersani si prestano alla pagliacciata, fanno i burattini di Casaleggio. Questa è una vergogna. Allora, scusate. Ora, sapete tutti che è spuntato il nome di Mattarella, che Berlusconi non lo vota, almeno dice così per il momento. Qualcuno sostiene che il patto del Nazareno è finito, alla gente di tutte queste cose non gliene può fregare meno. Vittorio Sgarbi è con noi, ciao Vittorio. Oh. Eccolo. Eccoci qui. Tu Mattarella lo conosci? Benissimo, era in Parlamento con me, è stato ministro dell'istruzione. Ed è una persona. Ma parla? Parla? Ecco, è esattamente, qui siamo di fronte a una similitudine singolare, come il Cossiga di De Mita. L'altro cioè? De Mita si chiama Renzi, e beh, fu un politico di quasi primo livello, Cossiga. Il primo era ovviamente Andreotti, Moro, Fanfani, sì, che venne individuato da De Mita perché sembrava una figura con cui di secondo piano manovrare, diciamo, liberamente. Quindi sì, cosa ha pensato il nostro Renzi? Di trovare il politico la cui personalità, pur forte, comunque riconoscibile per una sua dignità, era però persona priva di alzate di capo. E infatti per 5 anni così fu. E poi si scoppiò gli ultimi 2 anni e divenne quello che conosciamo. Mattarella, presumo che nella visione di Renzi, Renzi sia quello la cui personalità, quale che sia, è però la meno esibita, la meno esondata, la meno rispetto a quelli che sono indicati. Amato, che è certamente quello che ha il più alto profilo di uomo di Stato, però che è il più odiato per le tante ragioni, anche quello che è stato detto di lui, delle sue pensioni, eccetera, quelle cose che quindi lo mette in una posizione. Mentre il popolo non sa niente di Mattarella, sa tutto di però Amato. Scusami, Vittorio, fino a Chiaro ha avuto il nostro incidente. E quindi l'ha scelto, io non pensavo che fossero nomi veri quei tre che circolano ormai da una settimana, evidentemente qualcuno l'aveva sentito e l'ha messo, ha tradito Renzi e l'ha messo fra i tre. A questo punto quali numeri servano non lo so, ma probabilmente non servono quelli di Forza Italia. No, alla quarta no, alla quarta Mattarella... forse no. Sì, alla quarta forse no, insomma, quindi non si può dire niente. Io no, però scusami un attimo, io faccio ho pensato questa cosa molto semplice, molto terra terra come al solito, che è questa. Renzi, che è l'uomo della rottamazione, della rivoluzione, no, del giovanilismo, se vogliamo, eccetera, eccetera, dopodiché presenta come presidente della Repubblica un uomo preistorico, diciamo la verità, cioè, perché Mattarella, che è giudice della Corte Costituzionale, è un uomo che io sono convinto che se uno gira oggi per l'Italia e chiede a un qualsiasi cittadino italiano, anche quelli che sono in collegamento con noi, chi è Sergio Mattarella, detto con tutto il rispetto delle autorità civili, politiche e militari, nessuno si ricorda una mazza, nessuno sa nulla, no, nemmeno come è fatto. C'è una cosa perfettamente giusta e che prova la furbizia e insieme la ingenuità di Renzi. Perché Renzi, cioè, lui vuole uno che non lo può oscurare, uno che non lo oscura. Se non lo oscurerà, forse. Forse, poi non lo possiamo sapere. Che venga fuori del Consiglio. No, certamente lui ha riesumato una figura che tra la Sicilia, i temi dell'antimafia e tutto quello. Sì, tutte queste pippardelle, tutte queste pippe. Però appunto non puoi dire niente, cioè di tutti puoi dire qualcosa. Pensa alla povera cosa, che in fondo non era niente, perché erano persone di sesso maschile che aiutavano una persona di sesso femminile, ma è diventata la scorta serva della Finocchiaro. Sì, la Finocchiaro certo, è stata certo esibita con un equivoco, ma esibita. Di Mattarella non sai dire niente, non hai nessuna cosa no, di è vero. Sì, tranne la sua opposizione quasi antropologica a Berlusconi, cioè, perché disse, per esempio, non si ricorda. Io all'epoca c'ero, manifestata in modo ideologicamente preciso, ma non rispettoso, educato, perché lui è una persona siciliana, è educato, sì, è un signore, sì, sì, che sì ha fatto, e quindi da questo punto di vista, che ti posso dire, non si fa fatica. Uno pensa questo, però esattamente l'opposto di quello che uno voleva da Renzi. Da Renzi, sì. Che è quello, dov'è la... Sì. Che è successo? Che è quello di una persona che avesse un largo, che è quello che diceva lui, che fosse applaudita per strada. Sì. Ora, se c'è uno che è difficile che venga applaudito per strada, no, forse anche è difficile che venga riconosciuto, sì, anche. Perché appunto, non riconoscendo, possono applaudire più te. Io vengo applaudito, tu vieni applaudito, ma non è che viene applaudito uno che non si lo sa chi è, o fischiato, cioè sei più famoso te di Mattarella, diciamo la verità. Beh, certo. Beh, io questo. Sicuramente, io sono un presidente della Repubblica naturale, rispetto, a parte. Ma cosa farebbe? Cosa farebbe al Quirinale Sgarbi? Beh, sarebbe veramente il top. Ci divertiremo come dei matti, quello è. Tu ti rendi conto? Dei matti, prenderei subito Parenzo come consigliere, diciamo, morale. Sì, consigliere alle brevi. Intanto dovresti immediatamente sostituire tutti i corazzieri con corazziere donne, ad esempio. Questo donne, è il primo atto fondamentale. Con Amazzoni, esatto. Il segmento ebraico. Sì, bravo. Dicendo, musulmano no, ebreo sì. Quello che dovevi rispondere l'altra sera. Non lo vogliamo musulmano, vogliamo ebreo. Quello è perfetto, sì. Un presidente ebreo. È anche un po' omosessuale, quello a metà e metà, ma più ebreo che altro. Senti Vittorio, ma come vedi questa storia tra la Isoardi e Salvini? Sai che non ne so niente. Isoardi è una ragazza grande, il formato è perfetto, perché lui tendenzialmente brachiforme, si allarga un po'. Lei è bella grande, comoda, insomma, a questo punto. Sì, di una vista, ragazza comoda da questo punto di vista. Alta, sì, alta. Alta, la conosco bene, simpatica, ma sembra un po' leghista, a dire la verità. Forse non lo è, ma potrebbe essere una ragazza leghista. Ma sì, è piemontese. È piemontese, no? Vabbè, ma che vuol dire? Sì, cioè, certo. Ma no, tu non l'hai conosciuta biblicamente, la conosco, no? Benissimo, la conosco benissimo. Non biblicamente, non biblicamente. No, biblicamente, perché era troppo grande, non ci ho neanche pensato. Mi sembrava. Lei ha partecipato. Ma come troppo grande? Che vuol dire troppo grande? È un po' grande, un po' di grande formato. Abbiamo fatto. Io ho vinto un premio Acqui, sì, Storia, con un libro, e lei era lì, credo, a presentarlo. Quindi lo conosco. Scusa, ma però il fatto che lui, curiosamente, qualcuno dice: le tre donne di Renzi, una al comune, la prima moglie, la seconda alla regione con Maroni, la terza alla Rai, cioè tutto nel pubblico, diciamo, no? Allora, mentre aspettiamo novità dalla politica italiana sul nuovo Presidente della Repubblica, siamo anche in attesa di una seconda meravigliosa puntata di Sgarbi e le sue donne. Nella prima puntata Sgarbi ha confessato di averlo fatto in questi luoghi segreti. Posso dirti dove l'ho fatto, come non altri, a teatro mentre vedi, in un palco solo, durante lo spettacolo, in un palco dove, quello è meraviglioso, sei lì con una ragazza, mentre da solo devi avere un palco tuo, qualcuno suona una musica sublime e tu ti affacci e da dietro, mentre lei si affaccia a guardare con te, agisci. Posso anche dirti il luogo, che è vicino a Torino, a Castellammonte, però la chiesa era sconsacrata, per cui mi sono comportato con un certo rispetto, visto gli argomenti di cui stiamo parlando, del luogo, nel senso che la chiesa era sconsacrata, era una specie di aula così per mostre, e quindi non è stato un atto che ha avuto un significato blasfemo. Non ho abusato del mio potere, però l'avrò fatto in un museo abusivamente, insomma, senza farlo sapere, magari con la direttrice del museo. Se può darsi che l'abbia fatto, non lo so, i musei hanno tante stanze. Allora, la seconda puntata, Vittorio, che è un po' la mia perversione questa cosa qua. Sì, questo l'abbiamo detto. Sì. L'abbiamo detto, la seconda puntata delle tue avventure. Mi dicono al Parlamento Europeo, dentro i bagni del Parlamento Europeo, in un posto al Parlamento Europeo, sì o no? Sì, ma quello sicuramente. Cioè, capito, dentro la sede del Parlamento Europeo? Parlamento Europeo, Parlamento Italiano, qualunque Parlamento. Pure il Parlamento Italiano? Beh, quando ero Presidente della Commissione Cultura avevo una serie di stanze, per esempio è venuta da me, ma non fu lì l'atto, Demetra Hampton, sì, che era fidanzata del primo Stato di Tangentopoli, mi chiedeva aiuto e io, per rispetto all'essere lui ristretto, sì, cercai di eludere l'azione che poi fui costretto a compiere a Piacenza. Beh, costretto, però, stretto, costretto, sì. Costretto, la ragione è questa, sì, che lei, andando a una festa dell'8 marzo che aveva accompagnato, sì, per ogni ragazza che mi carezzava o mi salutava, faceva delle scenate di gelosia. E allora a quel punto dice, vabbè. A quel punto dico, a questo punto devi avere il titolo per farle, l'ho presa e dietro il banco del locale dove eravamo ho iniziato a darle il suo destino. È durato 17 giorni. Scusa un attimo, allora Vittorio, abbiamo detto Parlamento europeo, sede del Parlamento europeo, Parlamento italiano pure è stato violato nella sede della presidenza. Violato, no, io effettivamente credo più che della sede, questo lo ricordo poco, proprio nei luoghi di ritiro, insomma, come d'altra parte tu capisci che il luogo di ritiro, se ti ritiri in uno, puoi ritirarti anche in due. Poi altri luoghi insoliti, racconta qualche altro luogo. Se Parenzo entra in un accesso del Parlamento con una sega, è un atto sessuale, ma è uguale a fare la ritiro. Certo. Assolutamente. E la fa a te, siete in due, ma è sempre un atto personale. Cioè, no, ma se per carità. Ritirato, il luogo non conta più. No, ma questo non c'è dubbio. Potresti farlo, no? No, tu un altro luogo insolito, siamo al Parlamento italiano, Parlamento europeo, poi? Ma hai detto quello che agli Uffizi. Sicuramente quello di mi pare che fosse, me lo ricordava l'altra sera un'amica di Bologna che mi diceva, ma tu poi sei venuto con me, siamo stati, credo che fosse una toilette o di un treno o dell'autostrada, insomma, anche lì molto semplice, però molto la semplice. Toilette per sé, la toilette, come sì, luogo dove sono scritte quelle cose, c'è questo gruppo, questo mondo di omosessuali, quelli veri o finti che mettono il loro numero, sì, sulle toilette, sì, sì, è un, sì, luogo erogeno, non so perché, cioè, uno si, cioè, ferma, tu sei molto, sei molto appassionato alla trombata nella toilette o cose del genere, sì, la toilette è un posto abbastanza frequentato perché richiede poco tempo, velocità, determinazione, è un atto strategico, un atto militare, cioè la moglie di qualcuno che è a casa tua, sì, tu la porti in bagno o sei al ristorante, è un atto meraviglioso. Fu così che una volta sottrassi, sì, una fidanzata a un celebre stilista, sì, che era quello che si chiama un nome straniero, sì, si scoprì poi che questa era la Macri, la famosa Macri, sì, che poi disse qualunque cosa. Questo nei bagni, durante una cena. Nei bagni del Bolognese di Milano. Nei bagni del Bolognese di Milano, una cosa pazzesca. Senti una cosa, ma tornando alla vicenda. Ma ti piacciono queste cose? Moltissimo. Quirinale, prometto che non userei i bagni, ecco, ma solo l'alcova. Solo un'alcova preposta. Tu pensi che la presidente della regione Umbria, che sta in un bellissimo palazzo, sì, a Perugia, sì, ha il suo ufficio nell'alcova, per cui invece di letto c'è una scrivania, ma ho detto proprio ripristinare la funzione originale, perché questo è un atto di. Ma io non ho capito, la coppia Isoardi Salvini. No, ma è una cosa che ti piace. Però Salvini che si è messo con una conduttrice TV, come lo giudichi questa cosa? D'altra parte segue anche le orme di Bossi da quel punto di vista, che era uno che le donne. No, questo non possiamo dirlo, perché no, ma non come conduttrice TV, non parlo di, cioè, anche questa diceria da tanti anni, sì, per carità, però Bossi era uno che con le donne, insomma, gli piaceva, certo, diciamo la verità, no? Mi piacevano anche lui. Io devo dire che Carlo Salvini mi interessa poco perché li vedo abbastanza omologhi, sono più preoccupato della Moretti e le mani di Giletti. Perché? Non ho capito. Perché preferisco la Moretti, io tra la Moretti e la Isoardi preferisco per mio gusto la Moretti, certo, e non ho mai fatto niente perché consideravo sacra la sua funzione parlamentare. Quindi dici, se sta con Giletti dovrebbe stare con me invece, prima di tutto. Certo, questo assolutamente. Se Giletti ha tanto osato, sì, vuol dire che era giusto osare. Io l'ho visto 3-4 volte e l'ho trattata come un politico. E invece hai sbagliato, dovevi trattarla come una donna. Come una donna, cioè, è l'opposto del politico. Però sì, mi dicono anche in un taxi Acqua Venezia l'hai fatto, Vittorio? Sì, quello. Beh, normale. Acqua Venezia, sì. Ho fatto solo su un taxi. No, era un'automobile. Un taxi. Una Mercedes molto grande, sì, su cui io stavo nei sedili posteriori con una ragazza napoletana molto bella e molto minuta, sì, e l'autista è quello che sarebbe poi stato l'assessore alla cultura della regione Piemonte, Michele Coppola. All'epoca era un ragazzino, guidava l'automobile perché un comizio che dovevo fare. E tu che facevi? Io, mentre lui guidava, stavo comodamente nella parte del trasporto. Cioè, in una limousine, diciamo, l'hai fatto. In una macchina a noleggio, insomma. Si chiama trasporto, no? Quando tu vuoi dire passione, ma mi trasporto. Dicono anche a fine comizio, qua mi segnano delle cose, a fine comizio a 10 metri da Piazza della Signoria, mi arrivano delle cose o no? Questo non me lo ricordo, forse sì. Dietro alla Rapacis, sì. No, però alla Rapacis no, no. Alla Rapacis no, perché mi fa schifo. Mi ricordo invece una volta che andai a fare un comizio per un candidato a Treviso, mi dicono. Mi sembrava Treviso, sicura Treviso, cioè, dietro un monumento l'hai fatto. Dietro una ragazza bellissima, una ragazza bellissima, però molto fidanzata e un po' convenzionale. Per cui dietro un monumento a Treviso l'hai fatto, a Vittorio. Sì, ma dai, sì. Su. Cioè, stai facendo questo percorso della mia. Ma sì, è molto più interessante di qualsiasi altra cosa. Ma siamo andati nel Quirinale e stai a preoccuparti. Ma che Quirinale, ma che ce frega? Ma che ce frega? Ma Berlusconi è stato fregato alla fine, a parte bisognerà vedere quello che farà. Secondo non me alla fine. No, no, no. Certo, ma Milan è il suo tipo, sono proprio antropologicamente diversi. Però... Vabbè, caro, vabbè, ti saluto, va, ti abbraccio. Ciao. Allora, vedremo. Ciao. Ciao, ciao. Andate per una fanculo e finisce la questione, insomma. Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. La cosa incredibile è che il rottamatore Renzi, l'uomo della rivoluzione, i volti nuovi in politica, sostanzialmente mette al Quirinale uno che nel 1990, a cavallo tra gli anni 80 e 90, battagliava con Silvio Berlusconi sulla legge Mammì, sull'ingresso nel Partito Popolare Europeo e su altre cose ancora. Insomma, un come dire, un dinosauro della politica. Stavi per dire un vecchio arnese. Un vecchio arnese della politica, ragazzi. Se uno va in giro adesso è inutile, togliamoci un po' di abiti istituzionali, di, anche di rispetto nei confronti. Cioè, se uno va in giro e dice: scusi, lei conosce il signor Sergio Mattarella? In realtà, cioè, se no, la gente dovrebbe, ti dice di no, però, che non lo fosse conosce. Vero questo, dovrebbe valere il criterio di chi, come Sgarbi ad esempio, pensa di mettere lì un cerimoniere come Muti, no? Cioè, ho capito, ma se ci vuole la politica una... no, ma no, non è solo che quello. Mattarella mi interessa poco, la ma anche penso Napolitano che, insomma, sì. Anche Napolitano era uno più conosciuto, dai, su. Beh, era sì, uno sì, molto è stato più conosciuto interni, ma Mattarella è una figura grigia, grigissima. Ma no, ma chi fa politica, chi si occupa di queste cose lo conosce, ma sa sì, chi la è legge Mattarella. Ti voglio ricordare, tra l'altro, no, però se uno sostiene che ci vuole una persona popolare, ma non al Quirinale, popolare, un minimo, va bene, Magalli. Ma no, ma non è questione, no, infatti tra Magalli e Mattarella però si può trovare una via di mezzo. Così. E chi è la via di mezzo? È ma la no, ma se la politica chiunque, dice... chiunque non Mattarella, però una allora cosa. Ha ragione chi dice Muti. No, ma Muti no, perché non si occupa di politica. Tra appunto. I politici, dico, tra i politici. Aspetta. Vabbè, tra i politici è così. Tra i politici, uno conosciuto tra i politici. A me piace Mattarella, uno che dico, vabbè, non te figuriamoci se non ti piace. Ti voglio no, segnalare. Ma, no, mi sembra una persona. Ti voglio molto... segnalare che nel 1990 Mattarella fu tra quelli, come ministro della pubblica istruzione, che si opponeva ai concerti di Madonna in Italia. Ti giuro. Vabbè, ma cioè, sì, nel 1990, nell'estate del 90, si era democristiano. La signora forza, Madonna dai. Faceva dei concerti in Italia, che all'epoca era considerata una roba un po' no, blasfema anche, sì, sì, blasfema. Si tolse le la mutandine. Conferenza episcopale italiana fece dei comunicati di fuoco sullo scarso contenuto artistico, la volgarità, mescolare il sacro e il profano da parte di Madonna. E il signor Mattarella, che cosa ci dobbiamo aspettare se verrà eletto Mattarella? Non lo so cosa ci dobbiamo aspettare. Ci dobbiamo aspettare dei reprimenda, delle censure. No, tutto, ogni cosa va contestualizzata mamma suo, mia, col suo mamma tempo. Mamma mia, dai, mamma mia. Mia. Oh, intanto anche Otelma si candida alla presidenza della Repubblica. Ecco qua. Il mago. Adesso cioè, il divino, si candida lui. Si è candidato alla presidenza della Repubblica. Lui, non è che qualcun matto dei suoi seguaci che non ha lo ha candidato. Lui il si è candidato. Divino, senti. Sì, vabbè, ho fatto un comunicato. Fatto. No, no, senti. Addirittura no. In un'intervista è candidato. Ah, un'intervista. Senti. Non insensibili al grido di dolore che da tante parti si leva verso di noi, abbiamo deciso di accogliere le richieste che sono state avanzate alla nostra persona e abbiamo accettato di candidarci per la presidenza della Repubblica. Ragazzi, ma no, avanzati mancavo. Da chi? Cioè, no. Proposte avanzate da chi? No, ma è fuori di senno, dai. Dai, su! Poi senti Otelma che definisce anche Renzi despoti con quattro sgualdrine che li accompagnano. Senti. Controbattere i tentativi nefasti degli aspiranti dittatori, degli aspiranti despoti, dei loro servi, dei loro ruffiani e di quelle quattro sgualdrine raccogliticce e mollicce che di solito li accompagnano. Sì. Questa era Renzi e la sua corte, capito? Signor divino, o chissà perché è così avvelenato su Renzi. Vabbè, Filippo Facci continua nella sua battaglia incomprensibile per me a favore di Corona, paragonando il caso Corona, una cazzata mai vista, alla Franzoni. Senti. Si deve poter capire per quale ragione per Corona dovrebbe fare dentro 13 anni senza benefici di pena, quando Anna Maria Franzoni ha avuto invece i domiciliari che Corona non può avere. Si deve poter capire perché Erika. Ragazzi, Filippo, ma sono due cose molto diverse, non c'entrano nulla. Il caso Franzoni e il caso Corona non c'entra assolutamente niente, zero. A parte che quella ha avuto un sacco di anni di condanna, per me pochi ne ha avuti, ed è uscita, è male che sia uscita, perché la legge italiana prevede certe cose. Ma sono reati diversi. Ma sono cose diverse, completamente diverse. Ma l'unica questione è che sono reati diversi, cioè una è accusata e condannata per essere un bambino, insomma. And now, the headlines with News Channel 3. E adesso, i titoli del TG3. In corso lo spoglio della prima votazione per il capo dello Stato. Dei grandi partiti scheda bianca. Domani il secondo voto, l'applauso per Napolitano. Renzi lancia Sergio Mattarella alla quarta votazione, il suo unico nome. Sì, dei grandi elettori PD, Bersani, se siamo responsabili è fatta, sì anche da Sel. Berlusconi, bianca anche alla quarta votazione, tradito il patto, nome non condiviso, vediamo se hanno i voti per eleggerlo. Alfano, l'accordo di governo tiene. Le Quirinarie del Movimento 5 Stelle, primo l'ex magistrato Ferdinando Imposimato, poi Romano Prodi che però dice non voglio dividere. Chi è Sergio Mattarella, siciliano, fratello di Piersanti, ucciso dalla mafia, si dimise contro la legge sulle TV e firmò la legge elettorale maggioritaria. Scaduto l'ultimatum per gli ostaggi dell'ISIS, la trattativa sarebbe fallita, al tramonto nessuno scambio di prigionieri al confine turco-siriano. Arrestato il marito di Elena Ceste, la donna è ritrovata morta in un canale ad Asti, l'accusa omicidio e occultamento di cadavere, forse uccisa in casa. Bracciati, beh, sembra comico, sembra di stare in un film di Woody Allen a un certo punto, grottesco, faceva quasi ridere per non piangere di una situazione con la Brodo come ha descritto il Presidente Pacifici. E siccome per 45 minuti, davanti alle telecamere così, nessuno. siamo qui. A un certo punto, conoscendo Davide Parenzo, vittima anche di uno scherzo, di scherzi a parte, io ero convinto di essere la vittima di scherzi a parte. E loro due... Allora, non si capisce perché voi scherzate e ridete, cioè pensavate di essere su Scherzi a parte, no, e questa vicenda, aspetta, questa vicenda totalmente surreale, è una vicenda, su questa vicenda non si può fare ironia, questo lo trovo incomprensibile. Siccome tu sia una persona intelligente, allora, dimmi. A questo punto penso, certo. Un conto è quello che abbiamo detto noi e che ha detto anche Pacifici lì scherzando, diciamo, a un certo punto allora... per sdrammatizzare la testa. Un conto sono le battute che sono uscite sui siti, camere a gas, hanno riaperto Auschwitz. Se tu hanno non capisci Auschwitz, la differenza, se tu non io. Capisci la differenza tra quello che è, credo che tu sia un deficiente. Ma se infatti, non capisci posso la essere differenza. Un deficiente, posso e essere penso un di deficiente. Sì, e penso di sì, perché guarda, allora, la gente che mi ha scritto tutto, qua, si scherza su no, tutto. No, ma dipende, ma un conto è ma scherzare dipende, e dire è accaduto un incidente. Ma come ma se tu parli sul serio? Certo che parlo sul serio, non ho capito. Allora, la situazione, allora è grave. Cioè, se io dico se lo fai per la polemica della radio. No, non c'è la polemica della radio. Senti. Se credi veramente non voglio continuare su questa no, cosa No, ma qua. Se credi veramente in quel che dici e non capisci la differenza assolutamente sì, dipende ovviamente cioè, dipende. Cioè, non capisci la differenza tra uno che scherza sulle cosa? Camere a gas e quello che abbiamo detto lì. No, però dipende. Allora, la gente che telefona e che ascolta, sì, nota una differenza o no? Ma no, ma certo che c'è una differenza, no, allora, con quello che avete detto voi. E allora, che qual è il paradone? Sì, ma, allora, siccome non scherzare c'è un limite sulle camere a gas, ho detto ma che certo per me che si può fare, poi dipende. Puoi continuare a farlo. Ma lo se puoi lo fa continuare un nazista, a fare. Se lo fa un nazista, oh, è una cosa. Se lo si fa, no, e lo fanno anche ebrei, e lo fanno non anche c'è ebrei. Nessuna battuta lì di ebrei sulle camere a gas. Nessuna. Vabbè, nessuna, va bene. Non hai si sentito scherzare una battuta sulle camere a gas? Non si può scherzare sulla camera a gas. Ma continuiamo, dai, forza. Ma non tu, in generale, dico. In generale, sai qual è la differenza tra un ebreo? Dai, Alessandro da Milano. No, ma io non le racconto di solito. Non le racconto, non ho mai fatto battute sulle camere a gas. Mai. Alessandro da Milano. Cioè, non capire la differenza tra quello che è stato detto lì. Va bene, Nato, non hai su questa cosa. Vabbè, qui è talmente sensibile. Sei talmente avvelenato che siccome non ti diverti perché questo funziona. Ma certo che mi diverto. Mi diverto fino a quando tu non, dai, non impazzisci, per cui. Alessandro Milano, vai. Mi diverto con te. Avanti. Dimmi Alessandro, dimmi. Ascolta, il giorno 27. Avanti. Il giorno della memoria. Ti annoi che cosa che hai tirato fuori tu? Roba che della mia del mio ufficio. C'era questa foto di questi bambini, dietro il filo spinato, con segnato il mio nome. Io sono di religione ebraica. Sì. Ho tolto la foto, ma non perché mi sono... Vabbè, questa non è ironia, però quelli sono dei coglioni che ti hanno voluto provocare, che vuol dire? Io mi sono vergognato. Ma scusa, ma che c'entra l'ironia in questo caso? Questi sono degli imbecilli che ti volevano provocare mettendo dei bambini in un campo di concentramento sapendo che tu eri ebreo. Questa non, qual è la battuta qui? Cioè, dov'è l'ironia? Giuseppe, dov'è il ma il confine? Ma il confine? No, è quello che decide lui, non ti preoccupare, vabbè, ascoltatore. E il confine lo decide lui, perché siccome per lui è tutto lecito, il confine lo decide lui. Va bene, lasciamo perdere, non voglio fare polemiche ancora su questa roba, tanto le persone hanno capito. Certo, Alessandro, allora certo, sì, certo che no, per fortuna hanno capito cose diverse dalle tue, almeno gli ascoltatori di questa trasmissione. Io ti dico che hai ragione, Alessandro, basta, così sei contento, hai ragione. Io sono amico degli ebrei e posso, e me lo posso permettere. Scusami, è una sciocchezza. Sì, ma io mi posso... ma lui può permetterselo. Ma no, ma cosa dici? Ma lui può permettersi tutto, ma figuriamoci, ma che dici? Oh, ma stai scherzando? Alessandro, continua. Sì, no, se tu vuoi fare l'anticonformista, esatto. Guarda, ho semplicemente scusami Alessandro, io ho semplicemente fatto, adesso lo dico con grande tranquillità, ma non voglio ritornare su questa cosa. Ho fatto una battuta che mi sembrava assolutamente non estremista, proveniente da persona che certamente non è né neofascista né eccetera eccetera eccetera. Una battuta su una vicenda, cioè sul fatto che, come sappiamo, Parenzo e altre persone sono rimaste dentro il campo di Auschwitz, punto. Okay, e dunque ho fatto una battuta legata a quella situazione lì, punto, e lì. Basta. Il non faccio, non faccio battute, no, il tuo collega ha fatto un'altra cosa, messo nella bacheca una roba che non è una battuta, dunque non diciamo stronzate, sono due cose molto diverse. Ho fatto una battuta, come tutte le cose sono criticabili, dire che si tratta di qualcosa di offensivo per me è non ridicolo, siamo oltre il ridicolo, oltre il ridicolo. Farenzo, oh, finiscilo. È tutto finito, è tutto degradato, è tutto. Allora, pare che Berlusconi abbia detto ai suoi: Mattarella non va bene, un integralista giustizialista ha sempre fatto blocco contro di me. Intanto, ieri sera è arrivato qui alla Zanzara Lele Rizzo, centro sociale Ascatasuna di Torino. Il quale Lele Rizzo ha detto delle cose incredibili, ampiamente previste per carità, però insomma sentirle dalla viva voce di un contestatore di professione è sempre una bella esperienza. Il signor Lele Rizzo, cui comunque devo riconoscere di averci messo la faccia e di parlare tranquillamente senza puzza sotto il naso, senza quella no, quel no, con voi non parlo che di solito viene da quel mondo, ha detto che innanzitutto portare caschi e bastoni in una manifestazione è assolutamente legittimo. Sì, secondo me è assolutamente legittimo, si chiama autodifesa, quindi per me è legittimo, sì, caschi e bastoni, è assolutamente legittimo se quella manifestazione era quella di Cremona, che è una manifestazione che è stata indetta perché un ragazzo è stato ridotto in fin di vita da un gruppo di fascisti, e quindi è assolutamente legittimo, in più per difendersi dalla polizia, da tutte le cose che succedono all'interno dei cortei. Per i fascisti ci vogliono calci in culo e pure qualche bastonata. se uno si dichiara io sono fascista, che bisogna fare secondo te? Provo pena e due becche al cinculo gli fanno bene sicuramente, fanno sempre bene. È una bastonata in testa pure? Ma può anche fargli bene quello, è chiaro. Mente. Che c'è tutto, c'ha dei limiti, proprio... tutto c'ha dei limiti. Poi succede che in alcune manifestazioni, come quella della settimana scorsa a Cremona, ci siano delle vetrine di banche rotte. Vetrine di banche rotte, succede spessissimo delle manifestazioni. Sentiamo come la pensa il professor Rizzo. Le banche che c'entrano? Ma le banche sono un effetto collaterale di quella giornata. Dai, dai, adesso facciamo un sondaggio su chi gli può dispiacere se una vetrina di una banca si rompe. Adesso vorrei proprio sapere. Cioè, non dispiace a nessuno se una banca... Ma chi una... se ne frega? Ma chi se ne frega? I saluti finali tra me e Lele Rizzo. Ciao, presto, ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao. Oh, mi raccomando, ora che qua ti aspettano in tanti, c'è la sì, fila di gente che ti vuole mandare a fare in culo. No, col cazzo, col cazzo che vengo, che mi faccio quando manata. Ti aspettano. Sì, mi aspettano anche con qualche bastoncino in mano, magari. Caro... Secondo me sì, è col cazzo, è col cazzo che vengo Val di Susa. C'è un sacco di gente che ti vuole salutare. Salutare gentilmente. Mandarti a fare in culo gentilmente. Ciao. Comunque, guarda, Mattarella, adesso ripensandoci, un personaggio che ha governato l'Italia negli ultimi 20-30 anni, governato, è stato ministro, eccetera, sì, è stato ministro, ha avuto responsabilità, gente che ha avuto poi il potere in mano e non ha fatto una mazza, dai, questa è la realtà dei fatti. Giuseppe dalla provincia di Vicenza, poi commenteremo anche un favoloso articolo uscito sul Libero di oggi, proprio avanti, quando le cose sono un po', come dire, depositate. Siamo qua, no, ma possiamo commentarlo anche subito. Tentano la fuga da Auschwitz, fermati Parenzo e la sua truppa. L'inviato di Matrix resta chiuso nel campo di concentramento, scatta l'allarme e la polizia polacca blocca tutti. Poi lui si dà la polemica su Twitter, pazzesco. In realtà, come dire, in prima pagina di Libero c'è scritto una frase ancora più pesante, ancora più dura: i ridicoli tweet di Parenzo, autorecluso ad Auschwitz. Esatto. Come non si usa il cellulare. Un articolo divertente, ovviamente ci saranno delle imprecisioni, ma commenteremo più totalmente avanti. Leonard impreciso. Leonard da Verona. Autorecluso. Vuoi querelare anche Libero? Ma non me ne, ma è un giornale marginale, che me ne frega di Libero? Un giornale marginale, tu ma hai detto sì, prima non è che uno lo legge. Ma perché non si legge Libero? Io certo lo guardo, ma non ho visto gente che gira. Lo guardi. Ma lo guardo perché ce l'ho in redazione. Non si legge Libero, hai detto, non si legge giornale non marginale, mi pare che non venda si legge tante copie il mio amico, no. Cose di Libero, scusa. Non vende tante copie. Ma poi va bene, cioè, siccome se l'è presa con giusto. Te, siccome se l'è presa con te è un giornale marginale, è un giornale marginale. Se tu ricordi, l'ho detto anche altre volte. No, non lo so, adesso mi chiedo, un giornale marginale. Vabbè, veniamo, basta sapere. Tante copie, ma quello poco male non è un problema, cioè benissimo, è un giornale vende che poche copie, amici di Libero, vendete poche copie, giornale marginale, ma mi è manche magari anche fascista, non lo so, sono fascisti. Se ti piace lo posso dire. No, ma no, se vuoi lo posso dire, quello che vuoi, quello che pensi di dire, quello che pensi. Se vuoi lo posso dire. È fascista? Vuoi che lo dica? Leonard da Verona, non fare il cretino con me che non attacchi. Vuoi Leonard che lo dica? Da Verona. Se vuoi lo dico. Non attacca con me. Se ti va lo dico. Leonard Verona. Se vuoi dico quello che penso io, ma se vuoi questo lo posso anche dire. Leonard Verona. Sì. Poveraccio, sì. Leonard, dai. Lo dico. Aperte virgolette. Sì, sì. Leonard, parla, basta. Non voglio più parlare di questa storia. Lo dico. Non parlo più di questa vicenda. Mi hai rotto il cazzo. Se vuoi lo dico. Leonard da Verona. Io ho scritto: i signori di Libero si occupano di me con un sondaggio idiota e con un articolo scritto da un tal Tedoldi. No, è tal. Crisi di vendite. Cioè a dire che la ricostruzione che loro hanno fatto. Voglio parlare con Leonard. Non mi interessa. Leonard, non mi interessa. Pronto? Sì. Buonasera a tutti. Vai. Quello che volevo dire riguardo il presidente della Repubblica. Si può scherzare su tutto tranne che sugli ebrei. Leonardo da Verona. No, tu su tutto tranne che sugli ebrei. Puoi fare quello Leonardo, che vuoi. Vai. Puoi no, continuare. Non mi interessa, guarda, non mi interessa. Qui non è sui ebrei. L'articolo di Libero. Qualcuno che scherza davvero sugli ebrei. L'articolo di Libero. Non mi interessa, non interessa nessuno. Era un modo per ridere, non sei in grado di ridere. Sti cazzi, non fai ridere quell'articolo. Va bene, Leonardo. Perché vai. Non mi sono autorecluso. Va bene, Leonardo. No, va bene un cazzo. Non va bene, perché non mi sono autorecluso. E non fa ridere. Cioè, con gli altri spacchi i marroni su qualsiasi ridere. Cosa. Quando riguarda quando c'è qualcosa che riguarda te, non no, mi sono. Scusa. Certo che vi siete autoreclusi. Eravate alcune... dentro, vi siete chiusi da soli. Questo è lo spirito di quell'articolo. Come tutti i titoli e come tutti i giornali capito, riassumono scusa. La cosa. Vi siete rinchiusi. Siete rimasti chiusi, ma è normale che un giornale. Ma è un giornale normale un che è un giornale che usi la parola dire autoreclusi vuol dire che noi siamo perdere, rimasti volontariamente ma no, là dentro. Ma non voleva dire quello, dai. Ah no, va bene. Leonardo, autoreclusi vai. Non vuol dire quello. Va bene, Leonardo, dai, mamma mia. che tristezza. Pronto, buonasera. Leonard, sì. Buonasera a tutti. Vai, dimmi. Intanto Parenzo finalmente ha smesso di parlare, perché sennò non si va avanti. Mamma mia. No, con tutto rispetto a Parenzo, anche per il fatto di ieri che io non condivido. Quale? Sul che è successo? Io sono un uomo di destra. Ma tanto io non so manco quello che è successo, perché io non ho visto niente di così grave. Nessuno ha insultato nessuno. Sì, certo, nei rimasugli, no, di Twitter e nei rimasugli di internet succede qualsiasi cosa. Insultano pure mia madre. Ma mica io vado a dire: oddio, hanno insultato mia madre. No, vabbè, ci sarà sicuramente stato qualche tweet e qualche cosa pesante nei confronti degli ebrei, come c'è ogni giorno su tutto. Figuriamoci se non c'è stato in questo caso. Ma non è rilevante. Nessuno ha insultato nessuno. Sì. Nessuno ha insultato nessuno. Questo è il punto. Il problema, secondo me, non sono gli ebrei, sono altri. Vabbè, allora cose. Forza, vai Leonardo, su. Per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, secondo me che non ha nessuna carica né niente, non serve proprio un cazzo un Presidente della Repubblica qui. Devo dire che sono abbastanza d'accordo, perché se nel caso in cui passi, non ha nessuna carica, non ha nessuna, aspetta, no, attenzione, potere, se passa la riforma di Renzi avrà sempre meno poteri. Napolitano ha avuto un grandissimo potere fino adesso, eh? Sì, beh, ha fatto tutto quel cazzo che voleva. Beh, appunto, mettiamo che sia così, come è possibile che sia? Uno tendenzialmente di Franzi, io sono un venetista indipendentista. Vabbè, questo adesso che c'è. Metterei Lucio Chiavegato, anche se lui è un grande amico e tra l'altro ecco, il Presidente della Repubblica qua in Italia, con tutto rispetto, non ha nessun potere, vabbè. Non ha una mazza. Ma non è vero, Leo, nel caso di Napolitano ti contraddice, non è così, cioè non è quello che dici, assolutamente. Può darsi che in futuro avrà sempre meno poteri, quello non c'è dubbio, ma non è così come dici. Poi dopo i giochetti tra Berlusconi e Renzi non servono a niente, bisogna essere un po' picchettino, deve finirla di fare questi giochetti, di stare a spazio un po' a tante persone, sia anche donne interessanti, tra l'altro molto, molto brave, capaci. Ma scusa, ma il Presidente della Repubblica per te chi è? Scusa, uno, tu sei un indipendentista veneto, dovrebbe essere una specie di usurpatore, di oppressore. No, io non ho una vita un po' particolare, 25 anni che sono in giro per il mondo, faccio lo chef, sono in giro per il mondo, sono tornato dalla Russia. Marco dalla provincia di Chieti, grazie. Marco, provincia di Chieti. Ciao Beppe. Dimmi Marco. Allora niente, io volevo solo dire, vabbè, Berlusconi teme Mattarella, che è il Mattarellum, era una battuta così. Berlusconi teme perché ha il Mattarellum? L'um, sì. Vabbè, una cazzata, dai, forza. È una battuta, una cazzata, sì. Nulla, sì, io volevo dire, purtroppo è giusto, ritengo giusto che sotto l'aspetto umano mi dispiace per Corona, per carità, comunque chiede aiuto ed è giusto che si prenda in considerazione, però c'è bisogno anche che la giustizia riprenda il suo ruolo, cioè con Corona si rischiava di sdoganare l'uomo bello al quale è permesso tutto, quindi lui, voglio dire, ha sbagliato ed è giusto che paghi, come un po' per Berlusconi. Come un po' Berlusconi che è riuscito. Sì, ma però qui si discute di altre cose. Hanno chiesto la riduzione della pena. In questo momento non gliel'hanno concessa. Prima gliel'hanno concessa. Come si fa per qualsiasi detenuto? Poi non gliel'hanno concessa. È normale che chieda la riduzione della pena. La cosa ridicola di Corona è fare paragoni con gli omicidi. E questo ed è il gruppo di VIP che si batte per la libertà di Corona. Quello è il ridicolo. Quella è la cosa ridicola. Sì. Bisogna stare zitti, perché Corona ha commesso una serie di reati anche gravi. Far passare del tempo e poi le cose, come succede sempre in Italia, perché l'Italia è il paese del perdonismo, si aggiusteranno, vedrete che si aggiusteranno, però nel silenzio. Certo, se tu fai la cagnara sulle televisioni per la libertà di uno che non è Nelson Mandela, e allora poi alla fine le cose potrebbero non andare nel verso giusto, perché i giudici sono certamente degli uomini che possono reagire male quando c'è una campagna contro di loro, come se fossero gli oppressori di Corona, gli aguzzini di Corona. Marco da Padova. Sì, ciao a tutti, ciao. Dimmi. Beppe, ciao. Vai, forza. Ciao. Niente, ascoltami, volevo dirti, io sono a grandi linee d'accordo con te che si può scherzare su tutto. Io per esempio come cristiano mi sono sentito un po' offeso dalla vignetta di Charlie Hebdo sulla Trinità, però ci sta, ok? Però non vedo perché i cristiani debbano accettare, diciamo, l'ironia sulla propria religione, e gli ebrei lo stesso, e i musulmani lo stesso, però gli omosessuali non si possono toccare. Spiegami. Ma chi l'ha detto? Ma per fortuna in Italia si può fare, per fortuna non siamo né in Francia dove ogni tanto, no, Je suis Charlie a corrente alternata. In Italia si possono fare un sacco di cose, c'è la legge naturalmente che è lì a presidiare quando uno diffama qualcun altro, e per fortuna se la religione si può dire di tutto e si può dire di tutto su tutto. tutto. Si può dire di tutto. Poi ci sono i tribunali che alle volte intervengono. Assolutamente. Come io mi ricordo, caso io di mi ricordo 8 milioni di volte in cui tu ridevi come un pazzo. Come nel ridevi, caso di Diodonè. Ridevi come un pazzo quando c'era. Nel senti, vabbè, lasciamo perdere. Va. Quando c'era? Devi lasciamo perdere. Lasciamo, no, non, no. Mi va, non mi va, non mi va. Marco, che dove vuoi dire? Cosa? Mi sembra che qualche giorno fa avete detto che il professor Tormina si è preso 10.000 euro di multa perché avrebbe detto, certo, e quella puntata l'ho seguita. Allora i foci no, non si possono toccare, mi piacerebbe anche tu Giuseppe di scaldarsi. Ma io sono contrario alla condanna di Tormina, mentre qualche giudice ha pensato che quella condanna, che quelle frasi che ha detto erano discriminazione. Per me è follia, perché non c'è nessun atto concreto di discriminazione. Quando si tratta di opinioni, secondo me, tranne i casi di incitamento alla violenza o cose di questo tipo, non si può condannare perché uno forse è come dire è razzista sui gay, come nel caso di Taormina, perché se non c'è un atto concreto di Taormina che, come dire, discrimina i gay nel suo studio, non lo puoi condannare. Questa è la mia opinione. Parenzo ne ha un'altra. Ciao. Oh, bisogna dire, caro Parenzo, che alla fine aveva ragione Minzolini, Cioè, aveva ragione Minzolini quando diceva che Renzi gliel'avrebbe messo in quel posto a Berlusconi. Adesso lo dico così in maniera brutale, però poteva, come dire, rappresentare alla fine una. Ma Augusto ci capisce, Minzolini. Augusto, ci sei? Di palazzo. Sì, sì, ci sono, ma intanto Parenzo non mi darà mai ragione. No, no, dai, in questo no. caso. No, ho detto che ci capisci di trame di palazzo. E non era ironico, invece. No, no, tutt'altro. No, ma voglio dire, ma alla fine, certo, alla fine è questo il risultato. Cioè, Silvio, stai sereno? O no? Beh, sì, guarda, sì, però il problema nasce da una specie di equivoco, secondo me, che c'è stato nella lettura che uno faceva di questa sorta di totem che era il patto del Nazareno. Cioè, se tu hai immaginato che davvero ci fosse un patto, allora la presa è andata male. Se invece, diciamo, come ho sempre pensato io, che il patto non c'era, ma che di fatto una certa, io dico che lui in realtà non c'è mai stato, ma Renzi, fammi finire, con furbizia, spregiudicatezza, un tatticismo squisitamente democristiano, ha conquistato il centro dello scenario politico e ha utilizzato tutti. Berlusconi per piegare la minoranza del suo partito e viceversa la minoranza del suo partito per tentare di piegare Berlusconi. Quindi di fatto non c'è un patto, c'è stato soltanto uno che dava le carte e gli altri che gli stavano dietro. Ma possibile mai che un abile giocatore, come questo gli è stato sempre riconosciuto, come Berlusconi, possa uscire sconfitto da questa partita, per esempio? Se è vero che poi sarà una sconfitta, perché in questo momento Mattarella viene visto, si attribuisce a Berlusconi una frase adesso in cui dice: è stato Mattarella il simbolo del giustizialismo che è sempre andato contro di me, eccetera, eccetera. Ma guarda, adesso non entriamo nel merito del personaggio, è più che altro lì uno deve partire dal merito della candidatura, cioè la candidatura, se fosse stato davvero vigente quel patto, doveva essere decisa insieme, cosa che non è avvenuta. Il dramma, diciamo, il limite o l'errore è stato un altro. Io poi ti dico francamente, l'ho detto 2 settimane fa a Berlusconi, in una riunione gli ho detto, ti racconto un aneddoto, sì, gli ho detto, ma, Presidente, tu hai fatto l'imprenditore, hai fatto il politico, hai fatto il Presidente del Consiglio, via dicendo, ma ti puoi presentare a una trattativa disarmato? E per disarmato intendevo l'idea di far passare la riforma elettorale ancor prima, sì, diciamo, di decidere, sì, quale fosse il nome per il Quirinale. E quello secondo me è stato un errore. Cioè lui ha lasciato a Renzi tutta l'iniziativa, diciamo. Tu sai, se tu vai a vedere, quando togli la legge elettorale e quando togli le riforme istituzionali, che cosa può dare Berlusconi a Renzi? Nulla, semmai il contrario. Semmai il contrario, quindi, sì. E quindi da questo punto di vista, sai, diventa... Cioè, per cui tu dici, Berlusconi è uscito sconfitto per il momento, anche se c'è la Camera, ma la Camera se la possono votare pure da soli, diciamo, in teoria, l'Italicum, certo. E poi adesso tu l'hai chiamata, com'è che l'hai chiamata, la Sola del Nazareno, com'è che l'hai chiamata? La sola, cioè Mattarella. Tu sei romano? Sì, come no? Sì, sì. Vedi, allora, la sola. Cioè Mattarella è la sola del Nazareno? Guarda, no, io parto da un presupposto. Allora, per non essere. Allora, se tu andavi sempre nella logica del patto, tu ti rendi conto che noi stiamo facendo un sistema elettorale, abbiamo già parlato, è una riforma costituzionale che dà un enorme potere al premier e al segretario del partito che di fatto conquista il premio di lista. Allora, se tu crei un meccanismo del genere, che è ancora, diciamo, più tra virgolette decisionista della riforma del centrodestra, tu chiaramente per avere una dialettica devi fare un sistema di contrappesi, e l'unico contrappeso possibile è il Presidente della Repubblica. Che poi... Per cui il Presidente della Repubblica tu potevi risolverlo in due modi: o facevi una vicenda, una proposta di un nome concordato che bene o male venisse o dall'area moderata Casini, o altrimenti espressione diciamo dell'area di sinistra, ma contemporaneamente scelto dal, dall'area moderata, che era Amato, o altrimenti è chiaro che la cosa era assolutamente squilibrata. Proprio per questo ti ricorderai, ma perché Berlusconi non vuole Mattarella? Io 20 giorni fa, mesi fa, tanto per essere chiari, per dirti, perché i nomi non ci sono, avevo detto: se non puoi fare questo, allora che cosa fai? Fai una soluzione squisitamente politica, non prendi la personalità di mezzo che poi alla fine non ha l'autonomia per fare una sua politica. E per, di ma Mattarella che personaggio è da questo punto di vista? Ma io, guarda, per come lo conosco, diciamo, è una persona assolutamente a modo, una specie di Scalfaro, però... a modo, una specie di Scalfaro. Non Scalfaro, è uno di fatto che sono quelle persone di seconda fila che poi non hanno la personalità per avere una posizione forte al Quirinale, cose ne abbiamo viste tante, e poi vengono quindi di fatto condizionate dal premier o dalla maggioranza di turno. C'è troppo succube di Renzi, secondo te? Se io devo fare un'operazione del genere, la dico tutta, allora l'avrei fatta con un leader di primo piano, l'avrei fatta con Prodi, e l'avevo detto. Vabbè, Prodi poi era troppo autonomo. Ah, tu dici l'operazione di Berlusconi. Tu facevi un'operazione politica di questa natura. Soluzione politica significava mettere Prodi lì, nella logica della pacificazione, casomai. Ma perché Berlusconi non fa? No? Con un segretario generale di quest'area. Sì, ma perché Berlusconi non fa? Perché Berlusconi non fa in queste ore una botta da una botta da. Intanto mi dicono che Calderoli ha detto che Calderoli ha detto che Mattarella è il peto del Nazareno. No. Sì, il peto del Nazareno è stupendo, devo dire. Calderoli scatenato dice che non lo voteranno mai perché la Corte Costituzionale eccetera eccetera ha cancellato il referendum sulla Fornero, però l'ha chiamato il peto del Nazareno. Beh, Mezzolini è un po' più, diciamo, leggermente più a modo, ha detto la sola del Nazareno, la sola del Nazareno. Però adesso poi i presidenti quando sono in carica possono anche ammattire, possono anche essere diversi da come uno li immagina. A me, Mattarella, la cosa più incredibile che trovo incredibile, tu hai conosciuto la Prima Repubblica meglio di me, è che Renzi doveva essere quello della rottamazione eccetera eccetera. Mattarella, ragazzi, ma siamo andati possiamo fare due riflessioni che sono un po' così di questa natura qui. La prima cosa è che non era mai successo che due esponenti di fatto della stessa, come tempo culturale, della stessa corrente democristiana fossero uno premier e uno presidente del Consiglio. Sì, cioè, vero, devi ritornare al 1988, dove non c'erano lo stesso. Vabbè, però, della stessa natura c'era un segretario e premier. Che cioè era i democristiani non muoiono mai. Poi? Di fatto, e quindi la seconda cosa su cui uno dovrebbe riflettere è che nel PD ormai la componente, la cultura, diciamo, riformista, socialista, di sinistra, è minoritaria, non esiste più. Ah, beh, sì, certo. Sì. Sono morti i comunisti. Il solo Parenzo è residuale. Parenzo, sei finito, sei morto. Non sono considerato comunista. Beh, come no? Sei stato nella giovani... FIGC, no, per età non potevo starci. Vabbè, ho capito, però comunque è vero. Nei giovani pionieri, dove stava Parenzo? Ma comunque nei giovani pionieri, sì, quelli fondati da Togliatti, cioè, però, esatto. Voglio dire, i comunisti no, ma non sono morti. Mai stato iscritto alla FIGC. Mettono Mattarella, un democristiano, alla presidenza della Repubblica, Renzi che non è comunista, presidenza del Consiglio, eccetera. Ma perché questi non hanno? Perché Berlusconi non fa la mossa del cavallo e vota Bersani, vota Veltroni, vota spacca il PD? Io, però non mi sembra che abbia. No, ma adesso, domani, dice andiamo a votare, noi proponiamo Veltroni e tutti voi votate Veltroni. Io parto da un presupposto: la capacità di Renzi, che è bravo, disinvolto, furbo, detto molto tattico, nasce dal staticismo degli altri. Gli altri sono tutti. Ma scusa, ma se voi Veltroni spaccherebbe il PD, cioè questo è ma voi domani dovete fare o Bersani o Veltroni, altro che scheda bianca o alle puttanate che sono uscite giusto, voi dovete dare indicazioni. Berlusconi dovrebbe dire: bene, tanto ormai Veltroni, la partita l'ho persa, vuole fare Mattarella, e tanto Mattarella alla quarta votazione passerà, perché passerà anche senza i voti di Forza Italia, sicuro al 100%. Ma allora domani scegliete uno dei leader del PD e lo mandate in votazione, almeno con i numeri. Sai che bella sfida, Mattarella. Io la penso esattamente come no, ma perché non lo fa Berlusconi? Non lo so. Per non irritare Renzi, per non irritare Renzi. Diglielo, diglielo, durante la pubblicità mandagli un SMS o diglielo, dillo alla Pascale, forse è più efficace, dillo alla Pascale. Ma sai, cioè, il problema è questo, cioè molto spesso, ecco, la forza di Renzi probabilmente che ha anche una grande capacità di rischiare che gli altri non hanno più. Questo è il punto. Lascia andare il più grande bar d'Italia. Allora, intanto è successa una cosa abbastanza clamorosa oggi, perché come sapete il Movimento 5 Stelle ha candidato Ferdinando Imposimato, un'altra follia tattica questa qua, oltre a quelle di Berlusconi, no? Berlusconi che, come detto prima Minzolini, non ha iniziativa, non ha avuto iniziativa, non è stato lui a comandare le danze in questo frangente, ma evidentemente c'è un altro più forte di lui, oppure è anziano, ormai ha perso smalto, pensa ad altro, che il mio pensiero in realtà, cioè quando oggi si presenta con Confalonieri a un vertice di Forza Italia, è vero che ha partecipato ad altri vertici, però uno un po' ci riflette su queste cose, no? Cioè, e dice, forse non è che per Berlusconi conta solo la politica, contano anche altre cose, è successo per carità anche nel passato, però ha maggior ragione in questo momento. Allora, è successo nel Movimento 5 Stelle, anche là incapaci di dare Imposimato, sì, attraverso il voto, ma prendi un'iniziativa e candida Prodi, almeno metti un po' in difficoltà quelle della sinistra del Partito Democratico, invece niente, Imposimato che è un signore inesistente, che non ha alcun tipo di rilievo dal punto di vista politico. È successo che Rondolino, Fabrizio Rondolino, braccio destro di D'Alema, a un certo punto ha attaccato il blog di Grillo e Casaleggio, dicendo che è tutto un trucco, che è tutto un trucco. Furibondi quelli di Grillo, hanno annunciato querela, dicendo che è tutto manovrato da Casaleggio. Il computer e i server in cui riposano i dati del blog e quindi anche delle Quirinarie è di proprietà personale di Casaleggio, della sua società, non c'è nessun tipo di controllo esterno e quindi non soltanto non hanno nessun valore, ma sono facilmente falsificabili. Se fosse così, bisognerebbe attribuire a Casaleggio una capacità politica nulla, perché presentare Imposimato come frutto, come dire, di questa sorta di trucco è una cosa ridicola, diciamo la verità. Dai, su, ma questi qua, pure questi sono incapaci di iniziativa politica, è una cosa incredibile. Io non capisco se Minzolini pensa che Berlusconi ormai è finito dal punto di vista politico, oppure ancora qualche cosa da spendere. Ma qualche cosa da spendere, poi tieni conto, rimane sempre, cioè, l'elemento anagrafico e soprattutto i tempi. Cioè, è finito o no? Sì, è finito. No, dico nel senso che poi, se fosse finito non sarebbe ancora lì, e in ogni caso, cioè, devi farci i conti, perché ad esempio per la legge elettorale ci hanno fatto i conti. Sai qual è il problema? È che la politica ormai ha dei tempi e dei modi che non sono più quelli di una volta, cioè noi siamo ritornati proprio alla capacità manovriera dei democristiani. Quando io sento una delle tante motivazioni che vengono date, no? Lo sento pure dagli osservatori, avrei sentito pure te, che dicono però la grande conquista di Berlusconi è stata quella che lo hanno riammesso al tavolo. Ma che caspita significa riammesso al tavolo? Se tu vai al tavolo e stai lì e vedi gli altri che mangiano, passeggiano e via dicendo, e tu stai fermo e dovresti essere contento soltanto perché stai al tavolo, ma allora non ti sei riaffatto. Beh, ma qualche vantaggio da questo tavolo Berlusconi l'avrà preso o no? Io quello è il punto, sai, io quello che contesto, cioè, ancora non li vedi, cioè, magari non lo vediamo noi, che ne so, Confalonieri lo vede, sì, magari, però, cioè, sai, anche questa comincia a essere pure una bella leggenda, perché non li vediamo. Poi quello che c'era, ad esempio la storia del decreto, l'abbiamo visto, bisogna vedere pure se per caso quel decreto è stato fatto vedere come un'ipotesi possibile. Poi quello sulla è uscita fuori, gli ho detto no, sai che quello sul fisco, purtroppo dici, l'avrei voluto fare, non faccio adesso. Cioè, se uno immagina la logica del tavolo, prevede che ci dovrebbe essere rifatto quel decreto. Io penso che non sarà rifatto. Senti una cosa, ma Fitto dice che si dovrebbero dimettere tutta la classe dirigente di Forza Italia, altri dicono che forse si devono dimettere i responsabili, eccetera, perché insomma, se il patto del Nazareno doveva tirar fuori un Presidente della Repubblica condiviso, così non è stato. Sei d'accordo? Ma io sono d'accordo che diciamo una, delle motivazioni uno le deve dare. Io oggi ho sentito lì nell'assemblea il capogruppo dei senatori, ad esempio Romani, che diceva: noi abbiamo messo Berlusconi di andare al tavolo della trattativa con Renzi nella posizione più forte possibile. Cioè, questa non è una mezza follia per tutti i ragionamenti che abbiamo fatto. Io poi alla fine uno evita, perché normalmente quando succedono queste cose hai ragione, eppure diciamo non hai stile, diciamo, stato lì a rimarcare. Però io credo che se c'è qualcuno che è andato al tavolo in una situazione assolutamente di debolezza, per le ragioni che abbiamo spiegato prima, era Berlusconi. Berlusconi. Per cui ti ho detto, c'è anche un problema. Ma passa alla fine sto Mattarella o no? Passerà, sì. Io, guarda, Renzi si è esposto troppo, dai. Renzi si è esposto troppo, ha detto: Mattarella o nessuno, penso, dai. Cioè, lui ha rischiato molto, allora lì bisogna vedere, perché poi, visto che si balla proprio sui numeri, no, sì, sulle però decine di voti, quindi penso forse se li sarà fatti bene, anche se tu lo sai benissimo che nessuno fa mai bene i conti là, guarda la vicenda di Prodi. Di Prodi, appunto. Vabbè, ma è difficile. Ciao Augusto, nessuno. Ciao a tutti. Andrea da Modena. Andrea, vai. Voi sapete, no, che il presidente ce lo dobbiamo vedere attaccato ai muri col suo faccione per 7 anni? 7 anni, sì, troppo. Anche in Francia l'hanno ridotti a 5, basta con sta roba ai 7 anni. Cambiassero pure questo nella Costituzione. Ci sono 3,5 milioni di dipendenti pubblici che, guardando una faccia che non dice niente perché non gli appartiene, se ne staranno a casa di più. L'assenteismo aumenterà, ma vabbè, adesso l'assenteismo aumenterà vedendo in faccia, ma era una battuta, ma questo è veramente un paese di mezze seghe da un punto di vista politico, ma sì, ma bisognerebbe già cominciare a ridurre a ridurre lo stipendio del Presidente della Repubblica, ridurre e eliminare queste cose dei senatori a vita che sono stati confermati adesso, anche tranne in alcuni momenti in cui Pertini straordinario, cioè, non è che gli altri presidenti all'inizio di Scalfaro si diceva la stessa epoca, cosa, questa qua è finita, di Ciampi all'inizio lo stesso, finito. E poi si sono fatti amare tutti i presidenti a loro modo, perché no, ma ho capito. Ve le ricordate le nazionali di calcio, quando c'erano gli allenatori che non contavano, nessuno li conosceva, Vicini, appunto, Berzot. Lei mi sta confermando quello che dico, però, che no, all'inizio molti vinto, di questi, tolto certo, Pertini, hanno vinto, però non, cioè, non si fanno amare, nessuno, ecco, questo ma dico. Ma quella era un'altra epoca, così come non lo so, altra epoca. Vabbè, grazie, andiamo in provincia di Vicenza. È stato amato, provincia di Vicenza, vai. Sei pronto? Vai. Buonasera. Dimmi. Buonasera. Allora, stasera sono esattamente con lei, Cruzani, perché non vedo come Renzi, che voleva rottamare, voleva rinnovare l'Italia con gente giovane, eccetera, va a pescare dalla Sicilia, Sommarella, che no, veramente da Roma, perché no, è a Roma che è giudice della Corte Costituzionale, comunque insomma, sì, di origine siciliana, poi adesso in questo momento stanno ricordando un uomo, scandali, la mafia e tutte queste stronzate qua. Sì, conoscerà tutte le spese della Sicilia, le commissioni della Sicilia e della vecchia Democrazia Cristiana, sono quelli che hanno inventato le pensioni, le baby pensioni, sono quelli che hanno inventato i diritti acquisiti. Vabbè, adesso lui responsabilità nella regione Sicilia non ha mai avute, però insomma. Però non ha mai fatto niente per dirlo, neanche mai denunciate e neanche. Ma Mattarella è uno di quelle che non è, mi leggo una cosa, ma c'è tra le tante cose che nel 99, per esempio, a proposito delle pensioni, dicevano: le pensioni non si toccano, il problema esiste, ma è la spesa sotto controllo. 99, i conti finora quadrano e la verifica si farà quando si è deciso di fare. Cioè, siamo in presenza di personaggi della Prima Repubblica superati dal tempo e dal mondo, che hanno sbagliato tutto nella loro vita politica. Questo tutto, su Mattarella, tutto, però poi se si dice amato, uno dice uguale, no, però peggio, no, però su Amato, che invece ci ha salvato alla fine, tu sei, cioè, completamente fuori Mattarella di testa. Ma Amato è responsabile delle di Mattarella, di errori politici, la contraddizione è questa. Hai ricordato una frase di Mattarella che non voleva la riforma delle pensioni? Ma perché gente che vive in un altro mondo, no, dai, appunto, ha fatto aumentare il debito pubblico in Italia, ma ha fatto disastri, e questo è vero, mentre chi ha fatto la riforma, no, ma chi invece ha fatto la riforma delle pensioni, ha fatto riforme impopolari, oggi verrebbe sbertucciato. Vabbè, ma questo è un altro discorso, no, è la contraddizione, perché o si dice che un uomo amato, ad esempio, è quello che ci ha salvato, perché nel 92 fece la manovra allora, bisogna vedere il motivo per cui si è arrivati a fare quell'operazione là. Perché si è fatta quell'operazione là? Perché un sacco di gente come Amato ha contribuito a portare l'Italia nella situazione in cui poi c'è stato bisogno, forse come unica necessità, di prendere i soldi nei conti degli italiani. Punto. Consigliere, perché non sei responsabile se sei consigliere. Ma certo, ma le persone vanno valutate poi per quel che fanno. Ma mica ho detto che deve essere impiccato. Ho detto che sono persone appartenenti ad un mondo che è stato responsabile delle peggiori nefandezze nella storia italiana. Bisogna prendere muti. E allora ha ragione chi dice pescate fuori, perché buona parte di questi nomi appartengono tutti a quella storia politica. Fammi sentire Antonio da Bari, dai, Antonio. Beppe, buonasera, amico mio, come stai, Beppe? Vai, dimmi. Fammi parlare con quel comunista là, è online. Ma è qua, online, no, è collegato. Comunista, online. Non lo so, stava mai la web. Comunista, stava... no, perché non ci sono più i comunisti, né io lo sono stato mai. Vabbè, senti a me. Allora, mi sono rotto il cazzo, scusa questo termine, stavo guidando questa storia degli ebrei. In che senso? Non vuol dire che perché uno fa una battuta lo dici che va contro gli ebrei, o è nazista, o è fascista, basta. Cioè, perché devo anche accettare tutte le battute ridendo per forza tutto. Quindi il principio da oggi è che uno deve accettare battute su tutto. Ho capito. Quindi uno deve accettare. Aspetta, fallo parlare, fai finire di parlare un attimo. Capito, che tu vieni pagato, sei 24 ore là, io sto in macchina, sono anche un po' nervoso, che ho avuto una volta. Quindi, vabbè, questo che c'entra adesso, scusa, per dirti, fammi parlare. Antonio, forza. Stavo dicendo che hai rotto i coglioni con la cosa Gesù e Charlie, la matita, la maglietta, dove viene addirittura preso in giro il loro Dio. Esatto, io ho detto che non mi piacevano quelle vignette, ma era giusto pubblicarle. È successo il delirio. Guarda, io sono orgoglioso. Io ho detto che non mi piacevano quelle vignette. Io, no, non tutte. L'ho detto tante volte. Non tutte. Hai messo la maglietta col Maometto che diceva. Dopo l'uccisione poi ho detto che non condividevo nulla di quelle vignette. E non mi piacciono. No, quelle con la Trinità. L'ho detto un milione di volte, ma penso. Forse sono intronato io. Forse non l'ho detto. Vabbè, comunque. Ci penso, non ho mai detto che erano odiose quelle che insultavano Maometto e quelle del Trino della Trinità. Forse non l'ho mai detto. Ma non mi risulta, però. Sì, però non significa che chi fa una battuta sull'ebreo nazista. Comunque, volete sapere se si fa una battuta sui campi di concentramento, significa che è idiota, perché i campi di concentramento ma non si può scherzare. Continuate. Ma no, ma io non sto continuando. No, sto c'è zitto. Problema. Sto dico, zitto. Rido per forza. Sto zitto. Antonio, sai qual è il punto? Che io sono orgoglioso, molto orgoglioso di quella piccolissima battuta che non voleva essere una battuta che ho fatto, che riguarda una vicenda particolare, cioè dire il fatto che tre persone sono rimaste rinchiuse dentro un campo di concentramento 50 anni dopo. Hanno scherzato tutti, hanno riso tutti. Si dà il caso che quelle persone lì potevano anche non esserlo, ma erano ebrei. E dunque faceva ridere il fatto che degli ebrei fossero rimasti chiusi dentro il campo di concentramento. Punto. Basta. Nessuno di noi, figuriamoci, sono contro i negazionisti, contro qualsiasi. Sono contro Vattimo, sono contro qualsiasi cosa. Mi posso permettere, ma non io solo, ma molta gente si può permettere, normale, di fare una battuta sul fatto che tre persone di religione ebraica sono rimaste chiuse dentro Auschwitz 50 anni dopo. Però evidentemente scattano. Ma quella che ho fatto, esattamente io, quella che ho fatto. A me quella non è piaciuta, ma va bene, pazienza, ma hai fatto un caso su questa battuta, chi se ne frega. Ognuno se ne farà una ragione, me la sono fatta anch'io, bene, ma fatti una ragione. Mi si è chiesto un parere, ho detto che mi fa schifo, però vabbè, ti fa schifo quella battuta, bene. Ma posso dire no, ma è l'eccesso che non come, ma siccome non devi dire, ma tu non devi dire l'eccesso. No, ma l'eccesso di reazione su questa roba qui che non è realistico, capito? La trovo assolutamente, ma hai detto adesso che ti fa schifo? Ma è ovvio, ma l'ho detto anche ieri. Benissimo, ottimo. Posso continuare a dirlo, ma se no posso anche dire che va bene. A dirlo. No, questo è il punto. Cioè, ti fa schifo il fatto che uno faccia una battuta? Benissimo. Però sugli altri ma si possono fare le battute, è una cosa importante. Ma dipende non ho capito. Che cosa di perché ti fa schifo quella battuta là? Spiegami. No, sono curioso. Sono curioso perché non riesco a capirlo. No, mi piace. No, non devi dire. Anche Antonio è curioso. Cioè, la battuta hanno riaperto, sono state fatte tante di battute. Sì, ma cosa aveva di schifoso questa roba alcune qua? Alcune erano disgustose, altre erano schifose. Altre erano schifose e altre facevano ridere. Questo lo schifo si di questa qua. Dire? No, ma certo, amico, che si può dire, si deve dire. No, ma lo schifo di questa, amore, dove sta? Mi ascolti? Ecco, adesso sì, quando dice amore si lo schifo dove sta di questa qua? Chiedilo tu, Antonio. La battuta di Cruciani. No, però mi di fare parlare. Vai, Antonio. Se non mi incazzo. Vai, Antonio. La battuta di Cruciani non era agli ebrei quello che è successo con Hitler, è riferita a te e a quegli altri due che siete stati rinchiusi e ha fatto una battuta. È arrivato lui a spiegare. Che cazzo te la prendi? Bravo, è come dire, se io mi avevo chiuso nel cesso nell'autogrill. Sono felicissimo. I miei amici dicono che il coglione è rimasto nel cesso. Basta, sono con te. Rido anch'io. Non sbagliare. No, Antonio, è inutile. Può provare, non si riesce a ridere, non c'è niente da fare. Allora, intanto Francesco dalla provincia di Napoli, vai, Francesco. Allora, sarò molto telegrafico. Quale riguarda molto piacere del novennato del Lord Comunista che si è andato dal Quirinale, che questo signore molte volte è venuto a prendersi i voti nel Lione Sanità a Napoli senza dare niente, no? Perlomeno andando segno e fece qualcosa per la sua Sardegna. Io vorrei sapere una persona che mi dice nove anni, nove cose e questa fatta per Napoli. Prima. Seconda, vabbè, ma che c'entra? Non è che il napolitano deve fare delle cose per Napoli, dai, su, amico mio, dai. Il contributo lo deve dare, lui ha dei finanziamenti. Ma che vuol dire il contributo lo deve dare, dai, che stupidaggine. Seconda cosa, no, non c'è una stupidaggine. Seconda cosa, è uno che sta dal 56, dal 52 in Parlamento, E che gente, è come se c'era gente che fa la fame a fine mese. Comunque voglio dire poi, se seconda cosa, l'hanno eletto, apparente, cercatelo di mettere sotto titolo, di imitarlo, perché sta voce da poi mi fastidia, anche per quanto riguarda le vostre beghe personali. Auschwitz, una battuta, vi siete presi quasi un quarto d'ora, la trasmissione già è piccola. Poi ancora un'altra cosa, apparenza, per quanto riguarda, dice Amato, Giuliano Amato, quello delle sette pensioni al mese, ci ha salvato. Ma dove stava lui? Nel 92 ha fatto una cosa impopolare, ma utile. La del 6 per 1000, che stai dicendo? E purtroppo sì, guardi che quella lì... Alle piccole pensioni. Guardi che quella roba lì ha colpito tutti, ma grazie a quella roba lì ha contribuito poi che i governi che sono venuti dopo hanno potuto fare. Giorgio sta a consulto sugli 7 pensioni al mese. Su questo lei ha ragione. Ma anche fossero 3-4, su questo può aver ragione sulle pensioni di Amato, ma su quello che ha fatto nel 92 è stato utile, è impopolare, doloroso, ma utile alla fine. Utilissimo, grazie. Beh, Fabio, provincia di Firenze. Questo è quello che credo. Sì, poi. Ciao, sarei grandissimi. Vai, Fabio. Intanto qualcuno mi segnala: a me è piaciuta questa, letta su Spinoza.it col permesso di Parenzo. A Parigi salvi i clienti ebrei del supermercato assaltato dai terroristi islamici. Spinoza, si erano nascosti nel frigo. Puntini puntini, nel forno non ci volevano entrare. Ecco, per esempio, questa qua io la trovo una battuta. Io per esempio non l'avrei mai fatto una cosa di questo tipo. Però ci sta che in una situazione del genere come quella di Parigi, dove è stato assaltato quel supermercato, qualcuno come il sito Spinoza possa fare una battuta del genere, essendo, come dire, questo sito molto, cioè non è Giannelli, non è Crancic, non è Vincino, è un sito dove si producono delle freddure, delle battute molto controcorrente, anche molto violente in alcuni casi, ma si possono fare, è nello spirito di quel sito lì. Dunque questa battuta sul supermercato di Parigi, io credo che, anche se io per esempio non l'avrei fatta, perché non è, però credo che ci possa stare per quello che riguarda Spinoza. Fabio, vai, allora. Ma io mica voglio far chiudere Spinoza. No, che ne so. Posso dire che non mi piace? Battuta, ma sì, ma anche sì, però, battuta, bacchettone, moralista. No. Dico che non mi piace, non mi fa ridere, però poi non è che chiudere Spinoza, Parenzo, chiudere. Ma tutta, che me ne frega? Io mi ricordo che passavi nottate a ridere sulle bestemmie di cosa? Ma a parte mio, che. Sulle bestemmie di quel, di quel conduttore televisivo. Germano Mosconi. Passavi nottate a ridere. Esattamente. Allora, se tiri fuori questa cosa e fai molto bene a farla, saprai, perché no, forse una cosa, eri una persona intelligente, che esistono i contesti in cui le cose vengono fatte. Che c'è? Cioè non è... Che vuol dire? Non... Spiego? È vero, è la realtà, uno rideva, allora, come, ma io contesti, mi divertivo come un pazzo. I contesti sono che non è che tutto quello che uno fa in un posto a quattro occhi, in una coppia tra due persone, poi ripetuto in un altro contesto molto più ampio ha la stessa effetto e la stessa efficacia. Vabbè, stai filosofeggiando. Fammi sentire Fabio da provincia di Firenze. No, Fabio, semplicemente Fabio. Posso parlare? Sì, certo. Perfetto. Allora, niente, poi volevo dire che mi piace un sacco anche Parenzo, però Parenzo, rilassati, via. No, battuta, ma non c'è possibilità. Ma io sono talmente tranquillo che esprimo il mio parere, ma poi non... Perché finché nessuno ha la capacità di scherzare su qualcosa di ovviamente tremendo, ma con tutta la dovuta cautela del caso, rimarrà sempre a quell'atteggiamento tipico di per sempre sostanzi. Non ho capito, Fabio, scusa, non ho capito. Non ho capito, ma non importa. Non ho capito. Comunque, scherzare su certi argomenti. Ma se va bene, infatti si scherza su tutto, va bene. Ma chi dice niente? Paura sempre del razzismo. Ma vabbè, io non parlo di razzismo, perché alcune cose mi possono, non mi fanno ridere. Posso dire che alcune cose non mi fanno ridere? Giovanni da Prato, vai Giovanni. Sì. Nessuna censura. Io volevo intervenire a riguardo del Presidente della Repubblica. Volevo sapere se si poteva fare una proposta per eliminarlo, cioè togliere il Presidente. Beh, diciamo che si va verso una situazione nella quale il Presidente della Repubblica sarà sempre meno importante. Se... cioè, con tutto il suo entourage, che è un carrozzone allucinante, toglierlo e stare senza il Presidente della Repubblica. Non penso sia un qualcosa di... no, guardi, si andrà verso questa roba qui, perché poi alla fine il Presidente del Consiglio sarà talmente importante, ci sarà quasi un'elezione diretta da parte, che poi ci sono sempre i problemi all'interno dei partiti che possono mettere in difficoltà un governo, per carità, però il Presidente della Repubblica è importante anche nei momenti di crisi, e di crisi politiche, se passa un certo sistema politico, un certo sistema elettorale, ce ne saranno un po' di meno. Zanzarologi, Zanzarologi, antologia della zanzara. Zanzarologi su Imposimato, ospite della Zanzara in diverse occasioni, dietro Imposimato, che è alla fine il candidato più votato oggi, il candidato più votato per il Quirinale. Dietro le stragi c'è il Bilderberg. Ma è uno di quelli che è uno dei soggetti che sono dietro le stragi, non è solo Bilderberg. Purtroppo ci sono. Bilderberg è diciamo una specie di grande fratello, che un soggetto che sta al di sopra di così, che manovra e che si serve di terroristi neri, di massoni, che si serve di uomini politici, insomma. La Orlandi è viva. Guardi, io sono convinto che sia viva questa ragazza, perché è stata seguita, diciamo, la sua esistenza è provata da diverse testimonianze che hanno provato che essa è stata vista in Germania, a Ulm, dove dovrebbe stare? È viva e ha due figli. Questo è il candidato più votato oggi è il candidato più votato in Parlamento ed è il candidato ufficiale del Movimento 5 Stelle. La Orlandi, Emanuela Orlandi, ricordate il caso, ha due figli. Sì, avrebbe sicuramente due figli, perché alcuni testimoni che l'hanno vista in Germania subito dopo la scomparsa ha stabilito un rapporto, una relazione con uno di quelli che l'hanno liberata e che l'hanno protetta, liberata nel senso che non è più sotto la minaccia, eccetera, e quindi è una donna diversa da quella. E per concludere, Cossiga e Andreotti dietro l'uccisione di Moro. Andreotti e Cossiga hanno avuto un ruolo fondamentale nell'impedire che venisse salvato Aldo Moro. Riccardo, provincia di Lucca. Tutto? Vai Riccardo, dimmi. Buonasera, una battuta sul Presidente della Repubblica sui papabili. Non so se avete notato che su 10 nominativi, 7-8 sono magistrati. 7-8 sono magistrati, sì. Può darsi, cioè, a parte che Mattarella non credo che sia magistrato. Carlo Ascoli Piceno, vai. Buonasera Cruciani. Vai Carlo, dimmi. Volevo solo dire una cosa. Io ho una certa età, per cui mi ricordo quando si facevano i Presidenti della Repubblica salvaguardando i partiti, nel senso che se c'era la Democrazia Cristiana al governo, il Presidente della Repubblica era di sinistra. Oggi, se uno ci guarda dall'estero, cosa pensa? Che in Italia c'è solo il PD? Vabbè, ho capito, è così però... Fammi dire solo una cosa, sì, dimmi. Cioè, poi chiudo. Io non andrò più a votare, non prenderò più una cosa elettorale, cercherò di evadere il più possibile in ogni momento. Ma questo perché? Non ho capito. Veramente sono schifito. Alle elezioni destra e sinistra, centro-destra e centro-sinistra, hanno preso più o meno gli stessi voti. Qui hanno preso un extraparlamentare come Presidente della Camera. uno che non sa da dove viene, cioè, dico extra parlamentare, ho detto, esagerato. Un extra parlamentare era all'ONU e poi è stata eletta con Sella. Scusami, non volevo dire quello. Volevo dire che era una persona di estrema sinistra, no, extra. Ma estrema sinistra, la Boldrini. Estrema sinistra, non era una cattolica, cattolica non c'entra niente, che c'entra la cattolica? Va bene, non c'entra niente, ok, però ho reso l'idea chi avete. Vabbè, alla Camera c'è quella, al Senato c'è Grasso, che però non mi pare uno. C'è Grasso che non si sa da quale parrocchia viene, che si fa solo i cazzetti suoi. Vabbè, si fa i cazzi suoi adesso, è stato magistrato, adesso fa il presidente del Senato. Va bene, diamo i premi a tutti. Alla Presidente del Consiglio c'è Renzi, prendiamo il Presidente della Repubblica di sinistra, mi fate una cortesia, mi mandate un arcivescovo di sinistra ad Ascoli, così ci avete tutto e di più. Scusi, io posso capire che c'hanno tutto, ma se uno vince le elezioni e poi capita che c'è pure l'elezione del Presidente della Repubblica. Ma fino a 4-5 anni fa, 10 anni fa, si parlava di equilibrio. Dove è andato a finire questo equilibrio? Ma lo dica Berlusconi, però non me lo dica a me. Sandro, no, da Udine, Berlusconi. Sandro, ciao, ciao. Che ha fatto? Che ha fatto Berlusconi? Niente, Sandro, vai, Sandro. Sì, ciao. Dimmi. Senta cosa, anche se molte volte non sono d'accordo con Parenzo, anzi dice anche qualche volta per esempio le cassate, questa volta devo spezzare una lancia in suo favore, nel senso, per la questione della battuta, quella che hai fatto tu. Sì. Perché effettivamente, pensandoci bene, cioè, il contesto in cui è avvenuto, diciamo, tipo Auschwitz, ma non è che hanno giocato a frisbee, hanno ucciso un sacco di persone, insomma, anche in maniera. Beh, sì, ma infatti le battute si fanno anche. Esattamente, questo è il concetto di contesto. Le battute si fanno anche su situazioni drammatiche e tragiche? No, certo, nessuno dice che non bisogna fare le battute. Proprio lo spirito delle battute. Il contesto è questo, cioè che c'è chi può farle, è vero, cioè chi può farle. Gli ebrei fanno battute su di loro. E non è considerato antisemita. È una discussione antica, ma il contesto è esattamente questo. Un grande cantautore, si chiama Herbert Pagani, ebreo, diceva delle cose incredibili, ad esempio su Israele. E io non lo posso fare. Ma lo dice, si chiama il concetto di contesto, è esattamente questa roba qua. Poi in questo caso fare. Era. Ma tu ma lo puoi fare? L'hai fatto? Chi è che non lo puoi fare? L'hai fatto, l'abbiamo parlato in 50 volte, abbiamo fatto mezza trasmissione su questa roba, più fatto di così, io non lo posso fare. Come lo puoi fare? No, non lo posso fare. E in più ne abbiamo parlato 50.000 volte. Vai, Sandro. Non posso farlo, ma come non cioè, anche se sono assolutamente a favore di satira, questo non è che mi vado a impiegare, ma figuriamoci sui chissà chi. Sì, però devo essere sincero, sì. In questo contesto qua è come se facessi una battuta, non so, sulla delle innumerevoli, non so, qual era quella strage terrificante che hanno fatto durante la guerra di Bosnia. No, veramente in questo caso 92. Metti caso fai una battuta del genere, non è che passi per il simpaticone. Ma io non volevo passare per il simpaticone, non frega niente. Ma lo so, era una battuta, ma qualcuno se l'è presa. Ma va bene, Sandro, chiudiamo qui questa discussione. Eccoci qui, abbiamo accanto a noi Harry De Luca, caro David, come stai? De Luca voglio fargli un grande abbraccio, perché a me piacciono gli intellettuali barricaderi, mi piacciono molto e poi ho letto i suoi libri. Ma io non so nemmeno se lui si definisce un intellettuale barricadero in realtà. Le definizioni sono a carico del mittente. Appunto, Dio. Il destinatario non le riceve. Vabbè, ha scritto su questa vicenda del processo in cui è coinvolto per istigazione alla violenza, se non sbaglio, no? Sì. Un libro che si chiama La parola contraria, per Feltrinelli, in cui costruisce tutto. Lui dice di non essere un saggio per niente. Perché non sei saggio? Perché cioè sei mattoide più che saggio, sei. No, come sono, ti definisci? Sono un cittadino che si impegna nelle cause civili del suo paese, e quindi, siccome questo non è un paese saggio, chi si impegna nelle cause civili di questo paese è per forza un po' dirottato. Mi hanno invece inquisito l'anno scorso perché mi sono impicciato della TAV. Ma io mi sono impicciato. E se uno tocca la TAV? E se uno tocca la TAV, quella della Val di Susa, sì, si certo. intende, cioè quelli che sono stati incriminati negli ultimi 2 anni al numero di 1000, quindi con una intenzione di repressione di un movimento di massa, beh, quando uno va a toccare quell'argomento lì da quelle parti, quello sì, è un argomento sensibile. Ma chi è che lo vuole reprimere questo movimento di massa? Cioè, c'è veramente un'idea di repressione di un movimento di massa? Ti sto dicendo dei numeri, 1000 incriminati nel giro degli ultimi 2 anni. Qualcuno avrà fatto delle cose, avrà... Sì, ma 1000. E la procura perché che fanno? Sono... Sta appunto fatturando, ha fatturato negli ultimi 2 anni queste 1000 incriminazioni. Che vantaggi hanno? No, è una loro scelta di campo. Pensa un po' che questa ditta LTF che sì. mi ha denunciato sì. ha fatto sporto denuncia, sì. ma nello sporgere denuncia ha messo direttamente i nomi dei pubblici ministeri ai quali era indirizzata questa denuncia. Chi sporge denuncia si sceglie i pubblici ministeri. Il pubblico ministero è un ente anonimo che non... Cioè, questo che vuol dire secondo te? Il fatto questo che... vuol dire che quelli avevano già all'interno della procura di Torino dei nomi privilegiati che si occupavano esclusivamente di procedere. E sapevano che sarebbero stati dalla parte loro? Esattamente. Un complotto. Esattamente. Ma questo però è una cosa gravissima quello ma che tu no, dici. Ma no, ma è una cosa evidente, elementare. Cioè, tu dici che è questa azienda che costruisce una delle aziende che è impegnata nella costruzione della galleria, del treno, eccetera, sì. Sono in combutta con i giudici? No, hanno una linea di privilegiata di accesso alla procura che permette loro di scegliersi direttamente i pubblici ministeri ai quali rivolgere le loro denunce. E com'è possibile? E come fanno? Come fanno? Non lo so, lo fanno. Ma sono i giudici sono avversivi secondo te da questo punto di vista? No, sono schierati. Sono schierati. Quella procura è schierata nella difesa di quell'opera. Ma prendono soldi? Non si può dire. Ma no, lo fanno per ideologia. Lo fanno solo per ideologia. Non lo so, lo ma fanno ci vorrebbe secondo te un notav alla Presidenza della Repubblica? C'era un notav alla Presidenza del Consiglio, diciamo, Renzi era notav, poi si è dimenticato strada facendo, ha sospeso il giudizio. Non è mai stato notato. Sì, ma avrà... prima però quando era sindaco ancora. Quando era sindaco di Firenze era espresso contro la TAV, poi se l'è dimenticato. E poi, insomma... questo è vero. Ma Renzi, tu una volta avevi detto che Renzi ti dava un po' di speranza, no, perché Renzi... era fuori dai giochi, invece adesso? Renzi ho un sentimento di un pregiudizio, una gratitudine nei confronti del fatto che ha sgomberato il campo, il mio campo politico da quel gruppo dirigente del PD che per me era insopportabile, da Lema, Bersani, Beltroni, eccetera. Ma chi vedresti bene? Chi vorresti lì? Magari un cittadino della Val di Susa. Io preferisco Rodotà. Rodotà. Sì, il mio preferito è Rodotà. Però scusa una cosa, Renzi, tu hai detto una grande speranza, poi adesso ha sgomberato il campo, però poi concretamente come lo giudichi? No, concretamente uno che si trova in una situazione curiosa in cui tutti quanti, anche le opposizioni, sono costretti a sostenerlo per non andare alle elezioni anticipate, per cui c'è questo coltello misterioso dalla parte del manico in cui lui può minacciare continuamente elezioni anticipate e tutti quanti lo sostengono per questo e va avanti a botta di questo ricatto sotterraneo che finora tiene. Tu non mi dire che sei a favore del patto del Nazareno, mi pare. Ma quale patto del Nazareno? Io non, il Nazareno Berlusconi resuscitato da Renzi. Intanto il Nazareno è una figura. Se pronuncio il nome di Berlusconi. No, fa male alla tua bocca. No, non ci riesci nemmeno a dire Berlusconi. No, io per la carie, cioè lo faccio per igiene orale. Nuoce gravemente alla mia dentatura. No, prova un attimo. Berlusconi. Vedi che vi fa male. Non ce la fa. È incredibile. Ma da quanto tempo non pronunci? Cioè, non l'ho mai pronunciato. E il nome quando lo vedi scritto? Lo leggo. Lo leggo. Se no, non mi disturba fastidio, gli occhi. Però. Non mi disturbano gli occhi. Ah, gli occhi. No. Gli occhi oppure no. Usiamo delle perifrasi. Non so, l'uomo di Arcore. Ma non sei invidioso di una cosa che ha fatto Berlusconi nella sua vita? Ne so, le belle donne. Cioè, il fatto che si possa permettere alle donne anche giovanissime. Una cosa, l'invidia è una cosa che provi o no, innanzitutto? No, l'invidia no. Invece provo volentieri l'ammirazione. Mi capita spesso di provare dell'ammirazione per degli scrittori, per delle persone che incontro per strada. Berlusconi, sì. Figuriamoci. Cioè. No, però se devo dire una cosa positiva. Ecco, è stato l'unico uomo politico che si è affrettato ad andare al porto a raccogliere quelli della... quei naufraghi della Cater Irades, quel barcone albanese affondato dalla Marina Militare Italiana. Senti, no, ma torniamo alla vicenda dell'istigazione, no? La frase incriminata qual era che tu hai detto è giusto sabotare? La TAV va sabotata. Va sabotata. Tu non hai fatto nulla per sabotare la TAV come atto, perché io sono dell'idea che uno che dice una cosa di questo tipo e se ne assume la responsabilità, d'accordo, però se non mette in campo nulla poi per sabotare concretamente la TAV è assurdo che vada a processo, però quello adesso lo vedranno i giudici. È vero. Ma quello che intendo io, insomma, se tu apri il libro mastro del nostro, della lingua italiana, il dizionario, insieme all'accezione danneggiamento materiale, ce ne sono un mucchio di altri, di significati del verbo sabotare, che riguardano, arrivano a impedire, ostacolare, eccetera. E quindi, dal mio punto di vista, io stavo dicendo che la TAV è stata in tutti questi anni e continuerà a essere sabotata dal movimento civile di resistenza della Valle di Susa, della, di quella comunità montana. Sarà la tua difesa, immagino. No, no, questa è la difesa che io faccio con me stesso. Certo. Cioè, se io avessi detto, inteso la TAV in senso da sabotarla in senso materiale, ci sarei andato. Quelli che commettono la violenza poi ci stanno, sono pure. Sì, ma quello io la considero la pagliuzza nel mio occhio e non la trave. Cioè, ci sono cose più importanti, secondo me. Certo. Io e se viene colpito un poliziotto, se viene colpito un custode? Io sono diventato notab quando il militante notab, cioè sono nel dicembre del 2005, quando l'accampamento dei notab venne attaccato di notte e completamente distrutto, saccheggiato, pestati quelle persone innocenti, innocue, che non facevano niente e che stavano là. Tu sai benissimo, Henry, che in mezzo ai notab ci sono dei grandissimi delinquenti provenienti da tutta Italia che vanno lì solamente per scatenare casino nei confronti della polizia. Questo lo sai tu. No, questo lo dicono fonti, non solo, come dici tu, i magistrati, lo dicono fonti certe, autonome e indipendenti. Forse a te piace la contestazione violenta allo Stato, o piaceva o piace ancora, io non lo so. Non mi attrae, nel senso che non ero attratto, non sono mai stato attratto. Beh, insomma, ho fatto quello che era giusto fare negli anni in cui sono stato militante. Se mi attraesse ci andrei, per me è sempre quella stessa faccenda lì, insomma, se credo giusta una cosa poi la faccio. Ma ultimamente hai detto che i 99 post hanno fatto bene a scrivere più bastoni meno tastiere, hai detto che non è così grave poi aver scritto una cosa di questo tipo, ma si può andare alle manifestazioni con i caschi e con i bastoni? Ma si può andare a vedere uno che è stato bastonato a morte quasi dai fascisti e sperare che, insomma, la prossima volta non lo rifacciano più i cattivelli? Vabbè, ho capito, ma questo... Allora quella è una risposta spontanea che viene a quelle persone che stanno andando a fare un concerto da quella parte, che pensano che i bastoni servano per autodifesa, per non doverci ricadere un'altra volta sotto. Cioè è giusto andare a chiudere la sede di un movimento fascista con i bastoni e con i caschi? I movimenti fascisti vanno chiusi dalla legge, perché in Italia è proibita la ricostituzione del partito fascista. Però non aspetta, vanno chiusi non dalla legge a quelli con i caschi decidono, no, aspetta la polizia impedire che dei fascisti vadano a massacrare delle persone. Questo non si può impedire, se uno vuole colpire un'altra persona non è che c'è... Beh, bisogna impedirlo. Bisogna poi punirli, bisogna soprattutto. Impedirlo e punirli, certo. Così non ci si può fare giustizia da soli, però. No, si può fare autodifesa da soli, però, perché hai diritto alla legittima difesa in questo paese, secondo il nostro ordinamento. Beh, insomma, no, giustizia, l'autodifesa... No, beh, giustizia da soli, autogiustizia sì, però. Autodifesa sì. Grazie Henry De Luca, grazie. A voi. Presto, grazie. Andiamo in provincia di Reggio Emilia. Lorenzo, vai. Sì, ciao. Dimmi. Sono contro la battuta che hai fatto contro gli ebrei. Bene. Io non la ritengo giusta perché quello è stato l'olocausto. Sei in viva voce, però. Sei in viva voce. No, sono in auto e purtroppo ho il Bluetooth e devo fare così. Amico mio, ho capito, ma non sentiamo niente. Comunque, dai, forza. Come devo fare? Che devi fare? In teoria ti dovresti fermare oppure prendere per un attimo il telefono e portartelo alla bocca, perché altrimenti non si capisce una mazza. Dai, forza. Adesso mi senti? Sì, vai Lorenzo, dimmi, forza. Ecco, no, ti ho detto, ero contro quella battuta che hai fatto, come contro tutte le battute, e se io fossi un israeliano ti farei causa come avrebbe fatto la Keng contro chi ha fatto la Savignetta. Aspetto trepidante questo momento. Perché sai che ti dà fastidio se ti tolgono qualche soldino dalla tasca? No, a tutti dà fastidio se ti tolgono, anche a te se ti prendono dei soldi ti dà alla fastidio. Alla grande. Appunto, allora non dire cazzate, su. E poi, altra cavolata della giornata, vedo che stai diventando un po' di 5 stelle perché? Hai cominciato a dire contro tutti i presidenti che hanno nominato, Amato ha rubato, quell'altro diceva che... Ma io non ho detto che ha rubato. Ho detto che è stato corresponsabile del disastro italiano, non ho detto che ha rubato, attenzione. Come Mattarella in parte lo è stato. Sì, hai ragione, scusa, mi sono espresso male. No, è importante, se uno dice ha rubato, io dico no, non dico ha rubato. Mi sono espresso male. Sono persone della prima repubblica, cioè, ovviamente non è che tutti quelli della prima repubblica che ha ragione il 5 Stelle. No, non ho detto questo, ho detto che Mattarella è un personaggio grigio, molto grigio, che rappresenta l'emblema della prima repubblica della democrazia cristiana. Ma hai anche detto che sono persone vecchie che non dovrebbero più essere lì, che dovrebbero essere rottamate. Secondo me, ma non è che è rottamate, fa il giudice costituzionale ed è bene che secondo me rimanga a fare il giudice costituzionale. Avrei preferito un presidente leggermente più giovane. Non è possibile, ma sai che non è possibile. Appunto, vedi. Allora muti, questo è il fatto, non è così. No, non è possibile. C'erano meglio Bersani, meglio Veltroni, meglio D'Alema. Anche per me Veltroni è meglio sicuramente. Di D'Alema no. Ma tutta la vita, Veltroni sicuramente. Assolutamente. Ma per piacere. Assolutamente. Questa cazzata di Berlusconi che si è impuntato sul fatto che non devono essere delle persone di che hanno avuto delle responsabilità o ex segretari del PDS o degli S, è una cosa ridicola. Avete il coraggio di dire questo. Meglio Fassino, meglio Fassino, sì, meglio non Fassino. Non dire nulla perché sennò va a finire in galera, dai. Gli vabbè, confermano le condanne. Vabbè, questo è una teoria. Vabbè, grazie. Certo. Luca, ciao, Genova, ciao. Luca. Pronto, buonasera. Dimmi, dimmi. Ciao, siccome ho sentito adesso l'intellettuale De Luca, io penso che questi tipi di intellettuali non è che vanno condannati, andavano presi a calci in culo, perché loro scrivono dei libri con le cose interessanti, quello che pensano, poi ci sono dei deficienti che vanno, attaccano i poliziotti. Ma io non sono né di destra, non sono più niente sinceramente, però non è normale che sta gente qua può scrivere, dire quello che cavolo vuole. E poi ci sono ovviamente. Ma infatti è sotto processo per istigazione. Però ma secondo me. Ma non è messo sotto processo, a calcio in culo va preso sta gente qua. Non devono neanche fargliele scrivere perché non si beh, può. Fargliele scrivere, per fortuna c'è la possibilità che viene data a tutti di scrivere finché. E poi ci sono le leggi che difendono le persone offese dalla diffamazione, eccetera, eccetera. In ottavo sono gli stessi dei No Global. Io che sono hanno... contro qualsiasi cosa dice Henry De Luca su queste vicende qua, la TAV, eccetera, eccetera. Sono ferocemente contro, però francamente pensare che qualcuno tra i notav si esalti per la parola di Henry De Luca e vada a mettere le bombe o a sabotare, quindi tanto purtroppo esiste un reato che è l'istigazione, come si dice, l'istigazione alla violenza. C'è pieno di gente che non ha niente da perdere, si sentono degli eroi a fare delle stronzate, come è successo a Genova durante il G8 e come succede spesso anche in altri posti, come è successo in Francia, che comunque anche quella cosa di Charlie Hebdo, quando Calderoli ha messo la maglietta nessuno ha detto siamo tutti Calderoli, hanno detto tutti che Calderoli era un coglione, giusto? Almeno io mi ricordo così. Sì, ma lui stesso poi si è definito un coglione per aver messo la maglietta. Anche lui stesso si è definito un coglione. Stranamente adesso, siccome sono quattro giornalisti che scrivono delle stronzate, io non sono certo musulmano, ma non sono niente manco in quello, però cioè, se scrivi delle stronzate non hanno tirato giù la Torre Eiffel, hanno fatto fuori della gente che potevano evitare di scrivere delle stronzate. Va bene, grazie. Quindi, Luca, grazie. Ciao. La professoressa Efe Ball ieri sera qui alla Zanzara. La Isoardi, la nuova fidanzata di Salvini, mi assomiglia. Comunque sia, questo Isoardi, se guardate bene, soprattutto 4-5 anni fa, che era un po' più grassa, un po' più cicciottella, un po' più rotonda, somiglia tantissimo a me, anche lei è altissima. Non sono gelosa della Isoardi, con Salvini vorrei solo trombare. Ma non c'entra assolutamente, io non voglio avere un rapporto con Salvini, io voglio soltanto fare 2-3 trombate e basta. Ma no, guarda, Salvini, con tutto il rispetto, non sono geloso di Isoardi, che potete fare tutto quello che volete, visto che tutti i miei clienti, tutti quelli che ci vado a letto ce l'hanno già, una compagna, una moglie e tutto. Io voglio soltanto fare 2-3 trombate con te e basta, però 2-3 trombate fatte bene, intense, proprio bam bam bam bam bam bam bam, e così... Prima o poi conquisterò Salvini. Prima o poi lo farò, tanto meno che anche lui lo sa, sicuramente, perché ho parlato con dei leghisti quando li ho visto, così ho detto guarda, io insomma amo in un modo follamente Salvini, so che è impossibile, ma loro fanno un sorriso, dicono non dire mai. Efe Ball provoca Parenzo. Parenzo, ma tu non hai mai andato con la trans, scusami, ma neanche in macchina un pompino? Va bene ragazzi, andiamo a Milano, Luca. Ciao ragazzi, io volevo intervenire sul discorso delle battute, ebrei, ma su tutti, no, alla fine. Io, la mia domanda è questa, ma dopo 80 anni che c'è l'Olocausto, il giorno della memoria, eccetera, ma siamo sicuri che alla gente ad oggi, al 2015, gliene freghi ancora qualcosa? Beh, non lo so, quello che è le grandi domande di Luca. Mario, no, da Brindisi, per concludere, ho capito. Mario da Brindisi, gliene frega qualcosa di ma infatti non è che interessa agli ebrei, però il gioco della parola dovrebbe interessare all'Europa. Vabbè, cioè, Mario, vai. Gli ebrei hanno la memoria di io volevo intervenire già ieri per questa questione. Sì, dimmi, veloce, dai, che dobbiamo concludere, vai. Io non sono d'accordo assolutamente sul fare battute su quella tragedia, perché sono un papà da poco e ho capito cosa significa quello che hanno passato tutti quei bambini massacrati, seviziati, eccetera. Quindi non si scherza assolutamente su questa cosa, dovremmo solamente sentirne parlare e piangere. Io non sono d'accordo, lo sa perché non sono d'accordo? Non perché non abbia rispetto, perché credo che la satira, l'ironia, ovviamente dipende da chi la fa, poi in ogni occasione cioè, ci sono dei come dire dei ultranazisti che fanno satira, ma questo ovviamente non è questo il caso. Io credo che si possa ironizzare e fare battute su tutto. È evidente che se uno fa solo quello, cioè, se fa battute solamente sugli ebrei è malato, ma non è né il mio caso né quello di altri. Si possono fare battute ovviamente di un certo tipo, credo, sull'universo mondo, e d'altra parte la sensibilità non è che appartiene solo agli ebrei, ce l'hanno anche gli altri. Si fanno battute sui gay di continuo e non mi pare che ci sia, no, chi si offende tra i gay secondo me non ha alcun senso. Vabbè ragazzi, ci sentiamo domani alle 18:30, ciao. Allora, mi sono rotto il cazzo, scusa questo termine, stavo guidando questa storia degli ebrei, basta. Non vuol dire che perché uno fa una battuta, perché le battute, l'ironia si fa su tutto. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma che cazzo della retta? Deve scopare di più, scopa di più, Parenzo. Radio 24. La passione si sente.